sto bene, adesso benissimo. Hola, hola, hola. Solamente quando schiacci la portante, no, il rumore lo fa un po' forte quando lo schiacci e quando lo molli. Del DDT, come si chiama, che schiacci. Ah, del DDT. Sì, sì, fa un rumore quando lo molli e quando schiacci per modulare, lo fa proprio uno strappo, fa. Sì, però il PTT come fa un po' d'attrito forse. E l'M60 è quello. Va. Hola, regista lui che sto regolando. La radio Benito sto regolando. Ah, Claudia. Andà bene, c'è molto amplificazione, capito? Si sente qualsiasi movimento che fai di mano, di coso, si sente, c'è molta amplificazione. Ma cosa ti devo dire, Cla? Che quando ci parli tu è tutta un'altra cosa. È diversa, cambia la radio, capito? La voce tua fa cambiare la radio. E infatti. Fa vedere se è salito adesso. Perfetto, per me è ottima. Ascolta, come modulazione va bene adesso? C'ha una radio fortissima, bella, però è pulita. È buona, la modulazione è fortissima, Claudio, molto forte, molto. Non so come mai, ma è un bel aperta di radio, è un bel forte. Però pulita, è perfetta. C'ho il cacciavite in mano, per forza. Aspetta che attivo l'altra radio, perché prima non andava, gli ho aperto un po' l'LC. Aspetta un secondo. È fortissima, però pulita, non è che tende a strappare niente, è molto aperta di radio, capito? È forte di radio, capito? Ok, e così va meglio adesso? Sì, andava bene anche prima, Claudio, andava bene anche prima, perché non è che strappava nulla, non saturava niente, era forte, sentiva, era una radio fortissima. Niente, gliel'ha abbassata appena appena, però il problema è che con la voce tua si sente molto alta, con la voce sua sicuramente non si sente così alta la radio, Via. Tu mi confermi che va bene così, non lo aumento di più, allora dai, hola, vediamo i fatti. Aspetta. Siamo giù. Positivo, ma Benito è vicino a te, Benito, fa modulare a lui a vedere. Sì, mi senti? Radio, non è più radio, non c'è più radio. Ci va veloci. Sì, non mi senti? Ah, la senti la voce, non è il microfono. Dalla mia la sua, Massimo, vedi, c'è il vento. Scemo, non ho detto le corde vocali rotte, cazzo. Claudio, non è colpa della radio, no? Attenzione, la radio va bene, è colpa della voce sua. Senti, lui c'è una tonalità diversa la mia, capito? Lui c'ha una tonalità molto più grossa della mia. Non è andata in casa come ti dice la voce. Bene, come ti dice in casa, non è cantata di più, che esce di più la voce, che esce più bella. Parlare. E io lui come esco, meglio di Benito o peggio? Cazzo è bestiso. Ah, sono quello spalmiero. No. Allora, non è che va male, per carità. Allora, cosa è successo? Con la voce di Claudio, la radio è fortissima, è un'altra, c'è un'altra cosa, un'altra tonalità la radio, capito? Con la vostra rimane più bassa di radio, capito? Sembra la radio la senti di meno, capito? Ma non so, la fa girare diversamente come la timbrica della voce di Claudio, ecco cosa è. Sembra che sia più bassa di radio, invece non è vero, la radio c'è. È la timbrica della voce che cambia. Cappa, lui ce l'ha infatti molto più grossa della nostra. Vedi che stai spingendo? Molto più grossa. Tu che ce l'hai anche un po' più piccola della mia. So quanto ce l'abbia grande Luca e quanto ce l'abbia grossa tu, questo non lo so. Però quella di Claudio cambia. No, va bene. Sto dicendo, quando ci parla Claudio la radio è molto, sembra una... Allora, vorrebbe una cosa, registrate e fate ascoltarmi, per rendervi conto, per avere un'idea, capito? No, è perché usano la tibrica di modulazione e bagno, tutti quanti di famiglia che c'è. Guardate la voce, abbaia a me Cipini. No, spingili in radio, ecco perché quando diciamo, caso quando parla a radio dice va bene perché lui gli imposta una timbrica di voce, capito, diversa, lenta ma bella corposa, capito? Ecco perché cambia la radio. Certo. Tu iai. No, vabbè, gliel'ho commentata leggermente e basta. È tutto dolce che balla, è radio, che non veniva a dirlo comunque. Adesso sembra che vada bene, dai. Vorrebbe una passata qualche settimana qua a farla rullare, a vedere. Il picchio positivo è Gigio? Positivo? No, perfetta, i picchi sono giusti. Picchi non sono negativi, sono positivi, Claudia, va perfetto. Sono nell'8001 e la cosa è positiva. Pappagappa, va bene. Di questo cosa mi dici? Guarda che se non ero voi, non ci compri ciò balla. Quello sai che me la fai sui falluri? Tino. Tino, così, li fallo così. Vediamo se vuole il mio. Beh, un filo. Allora Gigio, bene va. Positivo, Claudio. Guarda, tu provi con la radio 2, provi quella, la stessa cosa, non cambia nulla, non c'è differenza, capito? Non c'è differenza. Ottima per la truppa, capito? Ottima. Gamba, comunque questa qui è più piccola la voce, vero? Si cambia, cambia. La radio c'è però è diversa, è un diciamo, spinge di meno la radio, capito? Spinge di meno. È positivo, infatti ti sto dicendo, lui c'ha la timbrica molto più grossa, ma molto. Adesso sta andando meglio, adesso sta uscendo molto meglio, capito? Adesso da come ha fatto prima, adesso sta uscendo molto meglio la radio, è più bella, si sente proprio corposa anche la voce, forse hai parlato più lontano di solito al microfono, non lo so, una distanza di che, guarda più o meno la distanza che sta parlando Claudio, al limite tu avvicinati appena di più, una decina di centimetri di più avvicinati tu. Hai visto? Questa non stava uscendo, cosa hai fatto? Come prendi l'MC60 in mano non esci più? Roba di pic e pac, eh? Esci da voce. E per forza è vicino. C'è un'altra radio, un altro microfono, cosa hai fatto? No, è l'MC60 di Benito con la radio di Benito. Perché ho dato una giratina e adesso lo sto facendo andare a vedere se rulla, capito? Se ne scende il topo dalla trave, mi. Sì, adesso non lo butta proprio il topo dalla trave, adesso è perfetta e anche forte, è perfettissima. Ormai anda, adesso sta andando. Come dice Pinuccetto, lo sai, bisogna che ributtiamo col topo alla trave per vedere com'è. No, lo sto comunque controllando, non ci sono problemi. Adesso facciamo un'altra cosa e poi lo lasciamo così, perché volevo aumentarlo di potenza, ma ne dà anche troppa di potenza. Era già aumentato di potenza questo, quindi uso e così. Della voce, sei uscito tutto spettettato, Claudio, ti mancava la voce. Perché ti ho detto sto aprendo e chiudendo il Mickey Game, capito? Adesso già va bene. No, perché ci avevo il Mickey Game, ci avevo tutto a buccia d'arancio, adesso l'ho lasciato così, lascia vedere. Riporta di grande buffo. A un metro e più sono, Gigi, com'è? Va. Positivo che va, ecco. stai parlando al microfono. Come va? Dai, piano, piano. faccio io, rientra con l'antenna. È positivo, positivo. Era vero, Arna, sono in scala 250, le ho portato a più di 100 watt. Tutto è positivo. No, da poca. Già va bene, beh, lo chiudo, ci sentiamo tra un attimo. È positivo, là. Non ho capito, stai arrivando dal mare con l'australiano, non ho capito cosa ha detto Luca, non ti ho capito, non più. Troppo pazzo, se so che sei salito adesso dal garage, tieni in compagnia di Francesco, così ha detto Luca. Sì, ah. Quelle cose che si appendono col bastone, gli sta attento, usi, insomma, da dai, queste sussurriche, alle regolare, gli sta attento, in bola delle sussurriche, insomma, da dai. Qui sta facendo velocetto, fratello, quelle cose che si appendono al bastone, capito, alle canne, al bastone, capito, quelle che si chiamano salsicce. Arriva soppressa, Luca, è stato qua, compreso, veloce. Lascia la nuova sospesa, lo paghiamo da fare, una fa l'alto, e con che demurco. E le orecchie? Pagava. Anda bene, anda bene, se no te le donate se non andai a bene. Ma adesso che marcia sei? In sesta spinge bene, dai. In sesta va bene, capito? Va più che bene. Appena più basso, Ma prova a attaccarlo al massimo. Al massimo. Certo, ti guadagni di 2 punti, guadagni. C'hai più picchi, capito? Le stazionali devi controllarti. Lì arrivi bene, a te che faccio una prova io invece. Guarda così com'è, uguale. È così com'è successo. Meglio è così, dai, più ottimale è così, vero, Venù? È così, ancora più bassa, Venù, più basso è così. Abbina questo coso. Ah, sento più, vi non sento. Vi non c'è, non mi ascolti più. Denuncio, la cosa è diventata negativa. Non ti ascolto di meno adesso, di meno. Ecco, sei più basso di prima adesso. Oh ragazzo, io vado a guardare un po' di TV, dai. Ce ne andiamo a vederci un po' di TV, cambio, passo e vendo e compro. Ciao Lucariella, Benetto, qui Lucetto, Stazione del Molo, Claudietto, fatevi buon proseguo della serata. La Gigi Vulcano qua, modulante, se ne va a casa, guarda un po' di TV e guarda un po' cosa muove il vento, anche qua l'orario è cambiato, però la faccia sta mormorando. Ok Gigi Vulcano, ti saluto da Torino, arrivi che sei una bomba. Ciao ciao. E a ciao. Attento Pinocchetto. Attento Pinocchetto. Hola. Attento dirci. Avanti. Sì, avanti, buonasera. E ciao Gianni. Qua avete modulato, eh. Gianni Roberto, ciao, chi è l'altro che parla? Ciao, beh, Pinocchetto di nuovo è da Buttunno. Attenzione, Pinocchetto Caprero e si chiama QFR. Ok, noi stavamo facendo il controllo con la colla, ma quando è toccata dagli altri, ho messo le mani in alto, l'ho detto buonasera, e stavo guardando quello che si è famoso, ma diciamo, se non c'è lo schema, ho mollato tutto, perché te lo dico sempre così, poi collegato e poi forse. Lo so, anche io ho lasciato perdere per non bruciare niente, il circuito magari fai qualche errore, brucio il circuito e poi me l'avevo lo schema. Ma stasera ero in un QTA che l'ho visto in funzione, guarda, come soffiava, vedevo la lancetta salire, ma bella oscillante, Robè, bella oscillante. Comunque ho sentito che c'è Claudio in frequenza, io stavo ascoltando, stavo facendo roba, ero intento a guardare questa roba, che non poi sono circuiti, non ha nulla, però se non si dovevano attaccare, perché Natalino me l'ha dato, che era completamente, ma se non lo trovo a comprare me lo compro, hai capito, quello non so, compro quello, ne ho due, mi copio tutto il sistema dei fili. Ok, Robè, come va? Ti prendi? Ecco un attimo. Avanti. Claudio, sto regolando una radio, Robè, mi dice se va bene di tonalità, la radio è Ministro che era completamente chiusa, va bene? Beh, guarda, volevo rivedere, perché mi sembra l'orecchio troppo forte, prova un po'. Vabbè, noi siamo vicini, poi io le regolo con la distanza, lui è distante, quindi... però la tonalità c'è tutta, è un 140, va bene? No, il livello non è alto, già sembrava forse perché è molto più forte di coso, di capi, fammi sentire la tonalità, fa un passaggio. Mi senti, Robè? No. Aspetta, stai parlando di due, un attimino, qua, prova. Benito, sono qua, non lo vedete, Benito o Claudio? Dove sei tu, Benito? La Claudio? Eia, ma qua, da Claudio, la mia tonalità com'è? Come quella di Claudio? Diversa, leggermente diversa, diciamo un po' più acuta la tua, rimane come predominanza. Non è grossa quella di Claudio. No, Claudio c'ha una voce diversa, diciamo un po' più Alberto Lupo, dai, come ti sentiva una voce. Ok. Comunque va bene, dai, non ci sono problemi. Tonalità, ce li ha, il livello va bene. Sembrava che fosse troppo alto, però forse era troppo basso coso, Capri. Comunque già va bene. Che cosa? In un primo momento, a orecchio, mi sembravi troppo alto di radio, ma va benissimo, non toccare niente, il livello va bene. Sta guardando le tonalità, fammi vedere la differenza, adesso quello che tratta Claudio. Parla, fa un passaggio un po' più lungo, Benito. Guarda, adesso sono vicino alla stessa distanza tra uno e l'altro, come sono portanti. Ma che microfono state utilizzando? 2060. Ma scusa, io vi sento tutti e due insieme, va a vedere, ma come state parlando? Con due microfoni contemporanei? Sì, siete con confusione di qua. Oh, vabbè, qua dove ci siamo, ci sono la radio, ci può per l'ora c'è. No, perché sentivo a parlare di tutti e due contemporanei, parli prima uno e poi parla l'altro, così riesco a capire. Allora, questa è la mia tonalità, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questa è la mia tonalità, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambia qualcosa, Roberto? La tua è un po' più acuta, come è Claudio, è un po' più rossa, come più bassa, diciamo, però sono molto simili, dai. Tu hai fatto, perché io sono anche più basso di Claudio. Come? Non ha compreso nulla. Io sento, ti sei portato appresso qualche rumore esterno. Come quando appresso allora non mi so c'erano i pendili dietro di me. Ah, va chiuso. No, sembra che ci sia qualche cosa acceso di apparato vicino. No, c'è pure un rientri. Questo è il 140 di Claudio, con l'MC60. No, no, non ho tutta la base mia. Non ti comprendo. Ho detto, questa è tutta la mia base. K, ho capito. Facciamo riprendere un attimino a Capri. Avanti, Gianni. Ok, riprendo io, sono qui seduto, sono solito. Come ascolti adesso, Roberto, usando nel microfono SM20 originale, com'è? SM20 su quell'apparato lì, ma SM20 dovrebbe essere amplificato il microfono, è così? È l'originale di questo apparato, perché non è amplificato? Ti sento bassino di radio io. No, non lo so, io non ho toccato nulla, l'abbiamo regolato a puntino l'altra sera e se no si torceva. No, non lo so, ma il compressore è attaccato, il processore è attaccato. Cosa? Il processore è attaccato. Cosa lo devo attaccare? Dal microfono. Ah, su che apparato stai trasmettendo tu? Ok, io sto usando l'Icon 728. E non ce l'ha il processore con l'apparato? Non lo so, non lo vedo, con la preferita. Oh Claudio, dillo dove è stato, che io non lo conosco con l'apparato. Ho capito, cosa cerco? Dillo dove c'ha il processore, il tratto del processore con l'apparato di Capri, che mi sembra perché non, che non abbia il processore inserito. Il processore, ma 728, c'è scritto proce. Non lo so, Bocra, non vedi quel punto è. Potrebbe essere a sinistra, dove ci sono i pulsanti, quelli piccolini. Fammi le due prove, con e senza. Io ho venuto qua a casa, sono stato schiacciato. 1, 2, 3, non so se prova. Avete schiacciato. Non è un sacco qua, eh. 1, 2, 3, non 2, 3, prova. Non c'è... No, no, no, non mi piace. Sei basso di modulazione, di livello, e poi non è la tua... Ti ho sentito molto meglio tempo fa. Oggi non mi piace. Non lo so, qui questa roba, qui c'è il mettine in questa roba, Non so che dire, qui c'è un'altra cosa, guarda adesso che ho premuto anche questo. Ma cambia per te, prova a sollevare il Mickey Game un pochettino, vediamo se va in distorsione. E al massimo ho passato la radio da qui dal microfono, perché Claudio ha detto che coniuga meglio, non lo so, e io ce l'ho comprato l'altro giorno questo, un attimino, però devo controllare un attimo. Dici qua, io lo sento molto basso. Vabbè, c'ha un IC28, un IC728, dell'era, non dell'era del Kenwood. Tra l'altro sto usando l'SM20, che non è che va bene con tutte le radio, va bene con radio magari di ultima generazione digitale, quello non è digitale. Ma l'altro giorno io lo sentivo meglio, non so che microfono ci avesse, però andava molto, ma molto meglio. Più forte come densità di livello, di modulazione, e la tonalità molto più presente. Adesso sembra che sta parlando dentro un baratto, una voce strana, cioè, non è naturale. E adesso come Roberto, ha cambiato qualcosa? Qua fa un passaggio un po' più lungo. 2-3, 1-2-3, prova. Hai tolto le predominanze di media frequenza, il livello è lo stesso. Sei in basso di radio, cioè, ma non è che sei troppo lontano, come stai parlando? Io non lo so. Ok, ce l'ho qui, è più vicino di cordino. Vabbè, scusa, se sotto, non li toccare mai. Ok, così va bene, così. Ecco, dai tutti gli acuti, anche in posizione 6, mettilo nell'altra posizione il microfono. Riprova, scusa un po'. Guarda adesso come la prima. Fa il cambio. Sì, il cambio non funziona, è quella del vetta. Non stai uscendo di radio. C'è cosa la Buduso, come si chiama? Adesso mi viene il nome. Se sta parlando lo sento piccolino sotto. Ma che è roba adesso? Un po' meglio, ma non sei tu, ti sentivo buco, non lo so. Io l'altro giorno, che microfono avevi l'altro giorno tu, Gianni? Io avevo un altro, ne avevo, e questo è quello adattato, diciamo. Va bene. Il microfono c'è nel 20, non lo so, ma se vuoi che senti l'altro, se proviamo con l'altro, un attimino. Allora, Capri, io ti sto dicendo, ti ascolto, non dico che sia una bomba, sufficientemente bene, ma l'altro giorno andavi meglio. Secondo me puoi uscire meglio, non lo so poi se dipende dal microfono o dall'apparato, più probabile che sia dall'apparato, perché l'SM20 io l'ho sentito su altri apparati e funziona benissimo. Poi già ci può dire qualcosa Claudio in merito, che ha più esperienza. Io ti sto dando giudizio mio personale, basta. Vediamo se con l'altro spingi un po' di più, sembri troppo basso secondo me. Così, un po' meglio di tonalità, però il livello è sempre basso. Questo c'è il Mickey Gain al massimo. Il Mickey Gain al massimo c'è. Questo è un po' meglio, ma hai cambiato microfono? Sì, questo è un altro microfono. Questo è un pochettino un po' più fedele, ma non è eccezionale, ti ripeto, non è un granché. Tu Buduso come si chiama? Che mi sembra che sta chiamando, ricordami il nome. Lucetto si chiama. Lucetto, ci sei ancora, perché se ti sentivo piccolino non vorremmo abbandonati, perché già da poco fa ti sentivo avanti, se ci sei. Sta parlando. Negativo. Sono Torino con Ammarana di Mauro e vi sto. Da te ti sto sentendo benissimo. L'altro amico lo sento bassissimo. Ti sei Torino? Sì, sono Torino, l'amico di Mauro. Ciao, dove sei Torino? Ti ascolto perfettamente io. Ciao Torino, Claudio. Su Barrafis. Ciao Torino, Claudio. Ciao Claudio, come va, come va? Bene, bene. Alle prese sempre con la radio, siamo qua. Allora, aspetta, faccio un'ultima regolazione qui. Eccola qua. Questa è la posizione che devi tenere, non lo toccare. Ciao, usiamoci. Qui ce l'avevi? Sì, sì. Anche a freddo, così? Anche a freddo, sì. Non riesco a salire di più. Ok, bene, va. Da me è tutto 100%, perfetto, non tocca nulla. Vabbè, adesso vediamo quando usa Benito, se solleva un po' la voce o se si fa prendere al palco, va calando a 100 watt pieni. 100 watt pieni di modulazione. L'importante sono 40 watt, 35 watt. Buonasera. Ciao Sandro. Ciao Sandro, buonasera. No, volevo sentire Torino, amico, da dove trasmetti? Sto modulando dai punti. Ah, cavolo, che apparato stai utilizzando? Non ho capito, scusa. Che apparato utilizzi, che antenna? Non ci siamo mai sentiti, mi pare. No, sto usando l'apparato di un amico e non ti so dire niente di più, niente di meno. Un attimo, ve lo chiamo. Vabbè, io chiudo questa radio, va, ci sentiamo dopo, ragazzi. Datemi il tempo di sistemare qua, ok? Ciao Claudio. Qualcosa? Oh, sembra un po' meglio, un po' più fedele come radio. Se riesci a sollevare anche il livello vai molto meglio. Ok, guarda adesso, ora. No, per me va bene, diciamo un po' bassino, sì, però adesso la voce è un po' più fedele alla realtà, diciamo. Hai ragione, si sente più nitida come voce. Prima era un po'. Sembrava uscire dal medioevo. Ma spiega che avete parlato di due, se hai parlato tu Torino vi siete sovramodulati a vicenda, avanti. Beh, adesso come potrebbe andare? Sì, abbastanza bene, dai, io ti ho detto, puoi andare meglio, non sei ancora al top, però rispetto a come ti ho sentito all'inizio stai andando molto meglio. È ok, non gliela accendo per basterebbe. Però se c'è possibilità di sollevare il Mickey Game, possibile che non c'abbiamo un Mickey Game con l'apparato. Non mi sono messa, guarda. Aspetta. Ok, adesso al massimo, proprio al massimo, adesso lo vedo. Non è cambiato quasi niente, dai, comunque lascia stare così, non ti preoccupare, va benissimo, dai, no, poi siamo magari creiamo altri problemi e ci sente, adesso è sufficiente, più che sufficiente la radio, non c'è problema. No, volevo capire Tonino che apparato sta utilizzando, avanti Tonino. Niente, lo sentivo, qui si sente un pochino più nitido, poco fa proprio era un bel disturbato. Che apparato utilizzi Tony, mi puoi far sapere? Allora, è l'apparato di Mauro, un momento che lo chiamo un attimino così, ti illumina appena appena. E anche il microfono naturalmente. Sì, sì, anche il microfono, la mano fissa, un discreto come impianto comunque. Oh, canale grande, bellissima modulazione, bella presente, sempre qua a fianco a me. C'hai lo stesso segnale più o meno di Capri, diciamo, lui arriva forse un peluzzino un po' più alto di te, però c'è una radio eccezionale, bella, bella piena. Sì, qui come antenna siamo un pochino così, l'abbiamo piazzata da poco, però non va molto bene. Per il resto, come uscita, suppongo che vada bene. No, la modulazione è eccezionale, infatti volevo capire, ma è un tunnel per caso il microfono? Sì, un tunnel. È eccezionale la radio, c'è un bellissimo, una bellissima tonalità. Niente da dire, dalle tue parti come mi ascolti tu viceversa? Ma io ti dicevo benissimo, proprio spariamo a grande. Bene dai, ok, vediamo se è rimasto qualcuno qua, là, riepiloghiamo, c'è Tonino, c'è Gianni, poi c'era l'altro che è entrato, avanti chi era l'altro? Sì, un attimo. Buonasera a tutti, Sandro, Porto Torres. Un attimino, l'amico degli punti. Sì, dimmi, dimmi. Capo, ok, come ricevi gli punti? Ti chiamo abbastanza bene, sei un pochino, diciamo, devi regolare un pochino la voce, però ti ricevo bene. Ok, va bene, avanti. Riprendi Gianni. Ok, va bene, adesso diciamo che l'ho regolato, di più non posso regolare come ha aumentato oppure no. Il livello è sempre lo stesso da parte mia, la tonalità forse è leggermente migliorata, però il livello è bassino rispetto ai parametri che ho io qua. Ok, ma non è forte quindi come radio? Allora, il discorso va benissimo come intensità, però confrontata con gli altri, per dire con l'amico di punti, sei molto più basso. Vabbè, l'amico è proprio al limite della saturazione, però è bella piena, squillante. Allora, sono due tipi di apparati diversi, qua chi sta lavorando sulla radio sua, il modulatore, lui c'ha un baracchino, tu c'hai un altro tipo di apparato, per cui modulazione è diversa. Però, nonostante tutto, sta andando bene anche tutti. Il resto non è eccezionale, però è sufficiente come qualità, dai. Fare il presuntuoso, dai, io ti sto dando soltanto dei pareri, per cui c'è il microfono, se ti piace va bene, tieniti quello, però ti consiglio sempre una cosa, i microfoni provali prima di comprarli e poi chiedi i pareri, prima ti ascolti tu e vedi come la radio rispetto all'udito tuo che ti conosci molto meglio di chiunque altro, dopodiché poi ti fai provare i microfoni e chiedi pareri agli altri, perché secondo me potrebbe andare meglio, però diciamo non è inutile dire, dai, va bene anche così, naturalmente c'è anche di meglio, non posso dire il contrario, ci sono delle radio come intensità, qualità e tipo di modulazione superiori. Questo lo metto proprio per andare meglio la radio, per avere una cosa che fa da bene, diciamo, proprio perché si adattava per questa radio, poi non lo so, purtroppo io non mi sono potuto sentire, mi sono fidato di chi me l'ha dato. No, non ti demoralizzare, ora sta andando benissimo, non bene, però sto dicendo c'è di meglio. Una cosa ti volevo dire, come l'hai recuperato questo tipo di apparato e come mai non sei andato su un altro tipo di apparato? No, questo io c'era un cartano, non per la vecchia data, mi aveva affascinato lo sempre, l'ho beccato da vecchi via internet, me lo posso arrivare. Puoi dire il prezzo? prezzo preferisci non dirlo? Vabbè, questo lo pago 350 euro, non nascondo niente, è inutile che la cosa è fredda. Il prezzo ho visto, mi piaceva, gli ho presi, anche se ne potevo anche acquistare con 50 euro in più, ma ero puntato perché mi ha sempre affascinato, non so perché. Ah no, se sei contento tu, la prima cosa è essere contenti di se stessi, futtidino nel letto, le pareri degli altri, se ti piace va benissimo, non ho niente da dire. Però c'è da dire una cosa, quei tipi di apparato sono più idonei per altri tipi di modulazioni. Per la M qua ci vuole un altro genere, e già mi capisci se vuoi capire, dai, già si sa chi va meglio. E poi ti può dare conferma anche Claudio, che lui ha più esperienza di tutti in questo campo. No, sto benissimo, questo va bene. Lo so benissimo, però io adesso mettendo il microfono adesso dovrebbe cambiare qualcosa, invece da quello che avevo prima tu mi stai dicendo che forse va meglio l'altro. No, non è che sembra un po' migliorato, però tieni presente una cosa, io ho parlato con una persona, con un tecnico, per radio mi è capitato che quello aveva un orecchio eccezionale, quello ti diceva che tipo di apparato e che tipo di microfono utilizzavi solo ascoltandoti, e lui adattava i microfoni alle radio, per dire, la ICOM se c'era in AM, per dire se non vanno bene, tipo gli AESU non vendono, lui faceva delle modifiche sulla linea del microfonica del microfono, e riusciva a farlo andare bene, però questo era un tecnico, che sapeva operare, ti cambiava dei componenti e riusciva a farlo vendere anche con quel tipo di micro di apparato. Naturalmente se tu c'hai un K va direttamente senza bisogno di fargli nessuna modifica. Questo rompe il microfono, si adatta a tutte le radio ICOM, infatti io non ho dovuto ingressare nulla perché come l'ho attaccato andava, non c'era altro che alla fine stava funzionando. Sì, no, è fatto apposta, ci mancherebbe. Però io avrei fatto anche delle prove. Quando mi hai preso nuovo questo SM20? L'ho preso da una persona fidata che conosco, che è Radio Amatore, lo conosco tanti anni, ce l'aveva lui attaccato proprio sul dito con l'amico Carlo di Chiaramonti, lui lo conosco in modulazione di una vita, è uno che vende anche apparati, ne ha tanti, robe, quindi sono andato, guarda, ho visioni perché mi fido, il microfono l'ho visto funzionando, lì andava, poi la radio mia ha capito che non si presta niente, però il microfono, devo dire che è stato di cappello, perché l'ho visto funzionando, lo visto funzionando. No, ci mancherebbe, cavolo, non sto mica criticando il microfono, però c'è da dire che la modulazione ampiezza qua, la 27, è un'altra musica rispetto ad andare in banda laterale. Banda laterale sicuramente è tutta un'altra musica quell'apparato lì, è fatto per altri scopi, diciamo, quel tipo di apparato, mentre questi della K si adattano di più alla 27 e alla M, vengono molto di più. E poi cosa volevo dire? Vediamo un pochettino, poi io devo sempre dire magari provare, fare delle prove naturalmente se c'è qualcuno che te lo può dare, provare con quelli equalizzati, con tipo Adonis o cose del genere, puoi fare delle prove, magari puoi eliminare qualche qualche carenza di frequenza, magari esaltando l'equalizzatore, di lì puoi agire, puoi attenuare o aumentare certe tonalità a seconda delle carenze di quell'apparato lì. Ok, vediamo un po' Tonino se ci può dare informazioni su cosa sta utilizzando. Un attimo, riprendo io. Gianni, su quell'apparato senz'altro devi lavorare, si addice molto di più la V908. Io sono rientrato. Un attimo, sono con la mia. È molta differenza, noti o Roberta, questa mia, quella di Benito? Diciamo questa, ma qualche giocattolino c'è qualche modifichetta, infatti qua sento un po' più presenza là, di coso, livello è più o meno lo stesso comunque. No, non c'è nessuna modifica, è sempre la stessa radio, solo che questa è la mia. Volevo sapere se orientativamente andava all'incirca come la radio di Benito, beh. No, sono ottime tutte e due, questa forse ha orecchie più piacevole, dai, almeno è questione di gusti, dai. Non so, gli stessi microfoni si stavate utilizzando qua. Sì, MC60, però questo è il 430, quello era il 140, quindi magari c'è qualche cosettina fatta in più. Però mi interessa sapere se come modulazione siamo lì, dai. sì, molto simili. Ho detto, questa è più fedele però, là, secondo il mio orecchio. Ti sento più naturale rispetto. Anche l'altra va benissimo, però mi piace più questa. Va bene, è questione di gusti. Ok. Lasciamo tu già, la luce per lì. Non si accende. Ok, proseguite pure. Ciao Sandro, Gianni e tutti quanti. Torno tra 10 minuti. Ok, se non ce la faccio qua, quando vuoi, puta, ci sentiamo. Diciamo, no, sto dicendo, infatti, Claudio me l'ha detto, vabbè, l'apparecchio si presta più per altre, diciamo, modulazioni, perché proprio nel DPA, che si dice il soglio del 94, non ne parla nemmeno di 27, da quindi un apparecchio che si presta per quelle frequenze lì. Infatti, forse pensavo anche che non funzionava il 27, perché nel DPA da tutte le frequenze HF, la 27 manco ne parla. Io lo so, sei tu proprio lo IAIS, la stessa cosa, abbiamo fatto delle prove qua in 27, assurdo, uno schifo, la radio fa, sono molto stretti come la larghezza di banda, cioè sono fatti per altri tipi di usi, dai, sicuramente, mentre il TTK di vecchia generazione parliamo, 140, 430, 440, se 80 si adattano molto meglio, non devi fare niente, basta attaccare il microfono e vai, perché è un po' più largo come larghezza di banda, per cui riesci a modulare meglio, cioè modulatore un po' più, diciamo, di vecchia generazione, diciamo. Però niente da dire, rispetto ad altre radio che ho sentito vai bene anche tu, non ti disperare, dai. Poi magari se devi fare il salto un pochettino più, se vuoi fare qualcosa di meglio devi andare, come abbiamo detto noi, su quel tipo di radio che ho nominato prima. E se non so, se non vede, però perché non stai parlando, ok, sì, ma io questo come l'ho visto mi sono puntato, perché ero affascinato già da quando ho visto questo, sono un bel apparato, ma l'ho visto, cioè, ho ancora mi cantavo Marco, ce l'ho con questo microfono, e niente, costava quasi 3 milioni all'epoca questa radio, no? Però tutti quanti li ho presi, però niente, magari come sta dicendo Sandro, perché io la pugno per il indietro l'altro giorno, perché avevo comprato quello, ma non lo posso recuperare, no? Da corriere quel microfono ancora. Posso recuperare? Come è passato ieri, l'abbiamo preso indietro quel microfono, poi non lo possiamo recuperare se vogliamo. Poi sei detto senza provarlo? No, non c'è, non mia moglie mi avevo comprato questo, sono andato indietro perché era una settimana che lo stavo aspettando, mi ero rotto le scatole perché avevo un sacco da fare, e poi ho comprato questo da Carlo, da Cramonti, ho detto adesso mi compro il microfono e mi prendi il suo. Però l'altro è stato tornato indietro al corriere, ma non si potrebbe recuperare. Prova, che cos'è? Battolini o TNT, cos'è? Sì. Prova martedì mattina, domani sono chiusi, martedì mattina prova a telefonarlo e vedi un po' se normalmente lo tengo nel magazzino qualche giorno prima di restituirlo. Sì, ok, no, perché voglio provare anche con quello, per, diciamo, ma ci verrà il prezzo, perché però non è questione di microfono, roba, è sicuramente in questione, come stiamo a fare con Claudio, ecco, che l'apparecchio si presta per le altre frequenze. Gianni, secondo me riesci a stabilizzare la modulazione del tono di voce con la V908, perché la V908 l'equalizzatore e quindi con i toni bassi alti, diciamo, magari riesci ad equilibrarlo. Con un mic da base normale e così via, il timbro è quello lì, capito? Ok, non lo so, io neanche cosa che devi prendere, perché proprio i toni sono, come mi ha detto Claudio, devono essere precisi, non mi posso ascoltare da nessuna parte perché non c'è nessuno collegato, bisogna che io lasci qualche numero a casa ascoltando da un'altra parte per come esce. Si tratta sempre di fare delle prove, capito? Devi fare delle prove, come stava dicendo di Mauro, mi sembra, logicamente sono apparati dedicati, diciamo, sfruttano meglio come modulazione, come segnale magari in altre frequenze. Nella 27 magari si addice sì, però non è che sfrutti il al 100%. Ok, va bene. Mauro, riprendi. Buonasera a tutti, ben sentiti. Niente, ho iniziato a cambiare il sughetto con i frutti di mare e quindi niente, adesso mi faccio una chiacchierata, va. Mauro, informaci di che apparato è. Ma quale? Mio? Chi sei? Roberto qua da Sassari, dai. Ti saluto, non ci siamo mai sentiti, o forse una volta, se non sbaglio. Vabbè, può darsi, forse eri in macchina, un LMS200. MS200? E il microfono è un Tanner più 3. Ho sbagliato. LMS, una faglietta LMS200. No, un MB più 4. MB più 4 addirittura, cavolo. Grande. Che male sta andando. Diglielo però chi l'ha fatto l'abbinamento, diglielo. Claudio, perché non ce l'è. Vantate, sei una delle più belle che ho sentito qua di 27, di modulazione, considerando il microfono che c'hai. Sembra lontano dal mercato ritoccato, Voltanne. No, non lo so, penso di sì, penso che abbiano cambiato la capsula e dopo non lo so. Io l'ho preso così usato, capito? Un transistor sul circuito di amplificazione ho messo Roberto. No, veramente piacevole la modulazione, tutte le tonalità, cioè bella. Assomiglia un po' a maestrale, come, anche come tonalità di voce. Già va bene. Ok, mentre sei andato, contentissimo, io ho fatto il 140 che era completamente chiuso, e l'ho aperto un po' di decilio, ho fatto tutte le regolazioni, e sembra che sta arrivata bene, no, meglio di prima, Roberto. No, già va bene, bella modulazione, poi è inconfondibile da quel tipo di apparati. Cioè, non mi meraviglia questo apparato che sta utilizzando l'amico Mauro, veramente bene va. Va bene, tutte le cose vanno bene quando devono andare bene. A chi tocca, avanti, cambio. Che è avanti? Buonasera a tutti, ruota, Leoncino. Buonasera Lucino, in compagnia di Roberto, Claudio, Mauro, Tore e Gianni Capri, se non mi sono dimenticato qualcun altro. Avanti Claudio, puoi far girare. E avanti Gianni. Avete parlato in due perché è molto saturo. Riprova. Ok, questo è il microfono normale. Della ICOM con la carica di dice. Decisamente peggiore di quello che trovo normale. Non lo so, perché è un microfono normale, ma sono per altro, per questo, già capisco tutto come funziona. Riprendete, dai. Vai, Doncino. Vabbè, Claudio, Luce, ho un amico, non ho capito il nome, il nominativo, Roberto. Scusa, stavo accompagnando loro. Non ho capito il nominativo dell'amico, mi ha dato il cambio. Sì, dimmi, Roberto qua, cosa fate? Avanti, Lucino. Sì, ma dai, un piccolo controllo, come ti sto arrivando. Segnale sei quasi 9-10, la radio sufficientemente buona, dai. Leggermente, ma sei in movimento, naturalmente. Sono il BM. Ah, va bene, dai. Che microfono c'hai? Forse non è un microfono molto potente, dai. Cosa stai utilizzando? Diciamo, c'ho un microfono andante, non è che sia molto speciale per questo baracchino, dai. Diciamo che no, lo devo cambiare. Adesso provo da casa, vedere se come esco, vediamo un po' come controllo. Dai, 5 minuti di bianco per me, dai, e ci sentiamo dopo al limite, dai. Capo, dai, c'è anche l'enominanza di tonalità media, dai, non hai proprio i bassi, ti mancano, per cui si sente molto le medie frequenze. Ok, avanti chi era? Tore da Porto, no, dove era? Adesso non ho capito, avanti Tore. Sandro. Ah, scusate, Sandro, avanti. Ok, dai. Va bene, tutto bisogna abbinare e trovare un attrezzo giusto per l'abbinamento. Ok, vediamo un po'. Qua sto sbattuando. Sto sbattuando, ok. Va bene, Claudio? Claudio? Claudio è già apparato. Evidentemente ancora sta mettendo tutto a posto. Ok, vediamo un pochettino. Lo mettiamo a posto. Ok. Ma c'era anche Mauro, avanti Mauro. Ciao Sandro, ho ben sentito questa parte. Questo doppio bip che è avanti. Boom via. Io guardo il segnale, boom via. Ho già visto il segnale, questo è un bip che conosco. Ciao Antone, sei in compagnia mia, di Claudio, di Mauro, di... non mi viene mai uno. Di... quello che ho appena parlato, non mi dimentico sempre, Sandro. E Gianni Capri, ti lancio a Capri che è il più in riposo di tutti. Avanti Gianni. Ascoltatori a tutti, bene ascoltati come sono in foto di qua. Rappasa, volevo chiedere, vabbè, beh, segnale, se sono errato o diminuito negli altri giorni. Molto meglio o molto peggio? Guarda, che croce sei più o meno, adesso mi ricordo, sono da molto che non entro io e che non ti sento almeno, ma più o meno penso forse qualcosina, occhio, però non te lo confermo, dai. C'è un segnale qua, se 9.40 oltre pure. E ti arrivavo bene a 9.40, quindi già sono arrivato. Vabbè, no, però sono andato il paro l'altro giorno, adesso appena calma la pioggia, non ci stiamo bene al posto suo. E a me le scopo si neve, a parte che ho problemi di antenna TV e devo cambiarla per quello di. Non ho fatto in tempo, venire davanti ieri. Va bene. Ripigliate Alessandro. Grazie. Ciao Torello, ben sentito. E allora come va? Ciao Mauro, ben sentito. Come va tu? Bene? Tutto bene, tutto bene. Figlia, te l'ho detto, finalmente me l'ho messo a casa, almeno così possiamo modulare la casa invece di usare la macchina. Aspetta un attimino di bianco, c'è qualcuno che sta chiamando sotto. Avanti. Avanti che vuole entrare. Scusa, magari sono stato io che ho fatto una chiamata, tutto lì. Roberto, che cosa Sandro corruttore? Che cosa noti di diverso? E ti sei passato parecchio di segnale. Vabbè, ha fatto il segnale. Va a parlare un po'? Ok, vedi un attimino. Questo è tutto normale, base, tranquillo, normale. Cosa noto di che cosa? Differenza di radio o cosa intendi tu? Oltre segnale. Esatto, vabbè, fatto il segnale di radio. No, di radio, fammi due passaggi, a orecchio non noto quasi nessuna differenza. Se vuoi farmi passaggi te lo dico di preciso, mi metti con una posizione e l'altra, così ti posso dare qualcosa di preciso. Ok, dai. Vabbè, non c'ho il commutatore, quindi mi viene un po' difficile. Vabbè, l'importante è che sia comprensibile, dai. Niente da dire, radio 5, nulla, niente da eccepire. Un po' bassino, sì, però radio chiara. Buongiorno Roberto. Quello dell'intento omologato, tutto lì. Oh, già va bene, niente da dire. Chi è che ha chiamato Roberto? Va? Ah, c'è Fredostino, sono. Come ti arriva adesso? Ma se è molto di più adesso, se 9.10 e oltre. Yeah. Ma da dove stai modulando Roberto? Donata radio. Fondo Scala, no, vabbè, Fondo Scala non è Fondo Scala, già sale un po'. Dove sei, mi hai detto tu, che zona? Via Valletta. Te la stai utilizzando? Io ho una che abbiamo pensato così con la canna pesca. Vabbè, anche io ce l'avevo giù al mare, la canna pesca a un quarto d'onda andava a gran bomba, molto più della Gran Plini, il doppio della Gran Plini. Gamba, Giulia. Claudio, ci sei? Che ci sono, Giuseppe? Come ti arrivo? Santiago 8, Radio 5, magnificamente bene, per le condizioni che stai andando, magnificamente bene. Ti ha capito cosa è, no? È la grande, perfettamente bene, Giuseppe. Già, stasera eravamo con un solo di suo compugno e abbiamo fatto quel lavoro là. Va benissimo, alla grande, non ci stanno problemi, tutto K del Roggero. Ma Gianni, non sento Gianni, capri due. Già sono qui già. Ecco, adesso io ti ascolto bene adesso, cosa stai usando? Sempre quello là? È sempre quello, là, cosa devo usare? È sempre quello lì. No, magari, là, come stavamo dicendo, si presta più per le modulazioni in HF, capito? Si è adattato, diciamo, sui DPA meno, cioè, neanche ne parla per il DPA di 27, manco ne accenna, là. Quindi è un apparecchio per le HF, quindi non devo dire nulla, non è che io penso mi dispiaciuto né niente, perché se voglio modulare in 27 ho gli altri apparati, no, non c'è problema, no, questo è fatto per quelle frequenze lì. Già, non hai grosse pretese, va benissimo, usalo così, la radio per me va bene, non toccare quei tastini di sotto, ripeto, perché altrimenti ti smorzano la modulazione, quelli servono per la banda laterale, per gli acuti. Quindi lascialo stare così, Michele, lascialo così, poc'anzi ci avevi il compressore inserito, dove c'è scritto comp, ed era molto spinta come modulazione, prova a inserirlo a vedere, senza toccare il microfono. È un bel forte, no Robert? No, fammi due passaggi, io non ho fatto differenza, prova un po'. No, neanche io no, perché io ho schiacciato il pulsante. No, aspetta, mentre stai parlando, fai col compressore e senza compressore, perché io col 430, questo c'ha i filtri, si nota benissimo la differenza. Prova a farlo, mentre stai parlando, inserisci e disinserisci il compressore. Allora, adesso non ne ha compressore, grazie. 1, 2, 3, prova, adesso ho inserito il compressore. Com'è? Beh, com'è? Vabbè, io la sento la differenza, tu non la senti? Sì che l'ho sentita la differenza, però secondo me la sta sporcando un po' di più la radio. La sporca perché lui c'ha una tonalità molto alta, molto acuta, e quindi la sporca. Tienilo senza compressore già, che va benissimo lo stesso. No, a me mi va bene, l'importante è riascoltarsi, non è che non pretendo molto, hai capito, solo che io ho adattato, mi piace che l'apparecchio ci abbia tutte le sensori su, ecco, perché sono andato da Carlo a comprare questo microfono. Se riesco dimmi se lo posso recuperare da corriere, si recupera, Non c'è problema, io infatti volevo che tu lo ritirassi quello là, non so se l'hai già mandato indietro o non te l'hanno portato, per vedere se le tonalità dell'Adonis sono differenti da quello dell'SM20, capito? Ciao Lugarie. Buona a tutti, eccomi qua, sono arrivato. No, anche questa qua deve salire, deve salire. Ah, te la faccio salire. Se li metti la scala, almeno sale di più. Ciao Robè, ciao Gianni, ciao Mauro. Ciao Luca. Ciao Giuseppe, che torna la sera a tutti, guarda. Ciao Cario. Perché quella è benita, non sale? Ho visto, però ho detto, infatti attacca, vogliamo sentire, oggi non ce la faccio. E vabbè, se oggi non ce la fai, non ce la fa sentire domani, non c'è problema. Cappa. Ciao Robè, arrivo subito. Ciao sette. Come va bene, ti ho offerto lui, che è maleducato, vabbè, bevi a casa tua, avanti Roberto. Cata veloce Luca, entra, fate due luce, se ne ok, avanti Mauro, chiuso i punti. E allora, ho chiamato stamattina ieri sera, non c'eri. Dove? Ecco la radio, ho provato ieri sera, ma non c'era nessuno. Ieri sera siamo entrati io e Gianni con Giulio dopo cena un pochino, perché io ero alla partita, poi ho fatto tardi per sistemarmi e tutto, ho cenato e ho visto che infatti non c'era nessuno e sono rimasto un pochino in ascolto, ha chiamato Gianni, ho risposto a Gianni e sono rimasto una mezz'oretta con lui, ma era già ora di andare a nanna, anche perché stamattina io ho lavorato qui. E niente, insomma sono a pranzo a casa del mio cognato, il primo anno dei Santi, che non non ci sono mie suocere, quindi siamo tutti a casa di mio cognato. Va bene, d'accordo. Sì, Sandro, portatore, se riprendi tu, datemi un secondo, era qua Luca o Roberto, stavamo facendo la radio di Benito. E adesso faccio anche la sua, perché dice che spinge poco, allora la facciamo spingere un pochino di più. Avanti, Sandro. Ok. Ok, dai, vabbè, mi approfitto che devo spiegare qualche cosina, rimango una foto, dai, rimango una foto qua a fare la... Dai, riprendi Roberto. Di casa, Sandro, non c'è problema. Radio, è meritato il campionato? Sì, abbiamo giocato ieri col Tisci, abbiamo pareggiato 0-0, una bella squadra, tutti i ragazzi, però... siamo talmente furti che è difficile che prendiamo gol. Abbiamo un importante lo Porquedo che non so se lo conosci, ha giocato in eccellenza, portiere, quindi molto bravo. Adesso si è ritirato e sta facendo questo torneo con noi. È grandetto, ha detto, capito? C'ha 3 anni meno di me, quindi 47 anni. Però è molto bravo. No, ma la squadra ha fatto bene, ci hanno fatto i complimenti tutti. Una bellissima squadra, adesso vediamo che cosa facciamo come campionato, insomma, dai, adesso siamo ad Arda, la sabato, ci abbiamo questa prima, la seconda fuori, poi la terza ci abbiamo veramente in casa, e già ne ho fuori, Arda, Porto Maggiore, Giave, poi cosa c'è? Titiri, e già ne ho, dai, siamo vicino comunque, già ne ho. Ma se no, la conosco bene a Porquedo, ho trovato per avversario tante volte, è cugino di un amico intimo mio, di famiglia, il mio cognato, no, abbiamo un buon portiere. Faccio anche la Napoli ultimamente, ho visto, no, come se non lo fa più. No, si è ritirato, anche lui è molto amico con Avamo, Piras, con Marco, con Luca, mi ha giocato Marco, ha fatto un partitone, abbiamo fatti a beffa, a tiri in porta, non si discute, però anche loro avevano un bravo portiere. E vabbè, vediamo adesso con sabato prossimo con l'Arda, solo che è festa, vabbè, è una festa, una volta finiamo, ci dobbiamo trattenere, siamo organizzati, vabbè io ho organizzato perché il campo in casa è il nostro, è quello dei bancari, che ce l'ho io tutto il campionato, quindi ho organizzato con Walter il gestore. Un rinfresco a fine partita, deve rimanere lì. Adesso ad Arda mi ha già telefonato il presidente, siamo amici, mi ha detto preparati perché dopo la partita facciamo la pecora, quindi va. Comunque è un mondo diverso, è la prima volta che lo faccio e va bene così, dai, sto in compagnia sabato e non diamo fatti a nessuno, va bene così. Che vado a fare carico batteria, se vogliamo modulare più tardi, sono di nuovo qua, mi saluto tutti indistintamente, avete capito, però le carichi nominativi, se no ci passa troppo tempo, riprendi Roberto. Ok, dai, se ci siamo, se me l'accetto non c'è problema, già lo sai, capito. Avanti per i saluti Claudio. E Gianni, dai, se non fai tardi ci sentiamo dopo, come al solito. Ciao, buona cena, salutissimi a casa. A dopo. Avanti Sandro, mi pare. Luca è andata bene, Sandro? Ha detto che rimaneva un attimo in ascolto, qua. Ah, ok, riprendi tu Mauro, allora dai. Ciao, mi hai sentito? Qualche sì, oggi ti sentivo molto più basso rispetto alle altre volte. Ma cadere, magari devo abbassare il volume quando parli tu, Mauro. Ma può essere. Perché? Rispetto a Capri sei ancora più forte di radio. Comunque a Capri lo sentivo di meno oggi rispetto agli altri giorni. Bella modulazione. Un po' attento, non t'avevo ancora sentito. Sì, bella modulazione, bella compatta, bella lineare, senza nessun problema. Adesso cambio radio anch'io, è tutto il giorno che parlo col 430, sta andando in uscio anche questa, e io martedì porto il 440 a Chiaramonti, io vabbè, devo fare un allineamento che ho scoperto, in 10 metri è spostato leggermente, me lo faccio allineare da Carlo, e poi le cambio la batteria a litio, ma da quando te l'ho dato io a te, non l'hai mai cambiata la batteria? tranquillamente le memurie. Lì come dice Vittorio, lì devo cambiare, le perde le memurie. Ci vuole la batteria, cioè ci vuole la batteria, mentre 440 sta sempre andando. No, 440 la batteria che hanno è solo per le memorie e anche per i display. Il mio ad esempio a freddo, quando lo accendo, non appare la frequenza, dopo una decina di minuti si accende il display, capite? Quindi glielo faccio cambiare. Un po' di manutenzione a questa radio, perché le ho tutte inserite, man mano le sto usando, però sai, 440 ce l'ho da tanto, manutenzione zero. Allora già che non ha toccato, mi ha detto no, portamelo che te lo faccio. E così lo facciamo. Guarda se mi buschi l'istruzione in italiano, qua, l'LCR 7000. Hai fatto bene a ricordarmelo, martedì che vado da Carlo, perché io non riesco a trovare le mie robe. Da nessuna parte, guarda, da nessuna parte. Oh, adesso che ho fatto tutto nuovo qua, quando vuoi venire, non ci sono problemi. E Giulio mi ha completato anche l'altra parte della base. Ho controllato tutto perché ho praticamente ripassato tutte le cassettiere, me le ho messe a posto, ci sono tutti, manca quello del 7000, io sono convinto che l'ho dato a qualcuno a farsi le fotocopie e non me ne ha restituito più. Guarda, sono convintissimo, ma non mi ricordo a chi l'ho dato, non mi ricordo, devo telefonare a Luca Flipper per vedere se l'avevo dato a lui, se l'avevo dato a lui quando si è comprato il 7000 o se l'ho dato a qualche altro, non mi ricordo. Vabbè, già si troveranno, dai, ci sono problemi. Sì. Non so, Marco, io c'ho anche il manuale, chiamiamolo manuale di servizio, dove ci sono tutte le cose per aprirlo, per farlo vedere, me l'ho scaricato da internet, c'ho il DVD, il DVD, il CD, sono le istruzioni in coso, in inglese, però quello in italiano, vabbè, volendo si potrebbe trovare un traduttore per essere tradurre, ma se riusciamo a trovare già pronto già è meglio, dai. No, già ne togliamo più, vabbè, hai fatto bene a dirmelo, Carlo ce li ha, a me me l'aveva fotocopiato lui la prima volta, poi l'avevo venduto, col manuale in italiano e in inglese, e niente, guarda, se me lo fotocopia, me lo faccio sistemare, tutto e te lo do, vabbè, figurati, non c'è problema, ho saputo nuovamente dell'evento, non mollare, non so che cosa... cosa si tratta, appunto di cosa si è trattato il compito, perché non ho solo chiesto quali erano i risultati e basta. Vabbè, diciamo è andata avanti, diciamo un po' di colpa c'ho anche io, perché mi sono fidato di cose che mi hanno detto, che hanno dato risposte in un modo e tutti insistendo e ho messo testa a quelli lì e poi ho fatto un errore. Ho sbagliato la cosa che di lì me ne mangio le mani. E con la abbreviazione internazionale R vuol dire coso ricevuto e io ho messo trasmetti, come si chiama? Inizia a trasmettere, come si chiama? Cambio microfono. No, vabbè. Lì te devi mangiare la Madonna o. Eppure già ripreparato in quelle cose. No, e lì ho fatto un errore trascrivendo, perché R vuol dire ricevuto, chissà ma cosa mi è entrato è K come invito a trasmettere, ho sbagliato, vabbè, quella è colpa mia, però non sai cos'è che mi dà più stizza di tutti, Claudio. C'era uno a fianco a me, un ignorante, proprio zero, non sapeva niente, di niente. E tre domande gliele ho date io, gli ho detto dai per farmi vedere, diciamo mi ha chiesto delle domande lui e gliele ho date le risposte. E poi alla fine ho detto che anche queste tre che sono giuste, le frequenze risonanza, ho fatto il calcolo con la calcolatrice, ci aprivo la formula, perché lui non ha risposto, ho detto mettici anche queste tre domande, classe A, trasmettitori, amplificazione in classe A, gli ho detto mettici queste e poi ne ho data un altro su non mi ricordo che cosa, tre risposte esatte le ho dato io. E... traito, promosso, entro io, siamo promosso a lui, alla grande, entro io, mi dispiace, niente, alla prussa, ho detto vabbè, pazienza, solo quello mi dispiace, eppure che ho fatto quell'errore della brevetta internazionale R, di lì proprio sono stato stupido che ho sbagliato, e l'altra che mi sono fidato di quelli che hanno detto loro, ho detto, mi te l'ha detto l'ingegnere, invece non me la mandare, era sbagliata, io ho risposto in un modo, e tutti, metti 600, ed era sbagliato. Come fidate delle risposte dall'ingegnere? Perché l'ingegnere è lì anche per prendere, per vedere se i candidati sono preparati, quindi ti prende a lingua e vede un pochino, non sempre con la tua testa. Quando ti dice guarda che hai sbagliato, e vabbè, appunto, dimmi tu. Tu scrivi quello che ti piace, io scrivo quello che penso io. Come ho sempre fatto io. Come ho sempre fatto io, perché anch'io quando sono andato nel 93, me lo ricordo, c'avevo due ignoranti, ma allora i tavoli erano attaccati, eravamo a gruppi di tre attaccati, proprio seduti assieme, capito? Ed erano due ignoranti, non veniva a dire, lui era in mezzo, ogni tanto mi toccava, ma è quella, tu scrivi, cos'hai scritto tu così, e scrivi così, a tutti i dini, io scrivo come piace a me, perché non ti devi fidare di nessuno. Comunque non mollare, visto che hai fatto meno errori della prossima volta, ci siamo quasi, non c'è due senza tre, quindi a Futtidini, a maggio, altra preparazione, altra corsa, la devi prendere e basta, prendere, prendere, prendere. Comunque, cara, ti dico una cosa, lo conosci quello Pizzalis? Sì, sì, e beh, è responsabile settimanale quello. Ma quello è una persona in gamba, l'ingegnere, il direttore, quello è un pezzo di pillarla in quel posto. Perché io gli ho fatto una domanda, c'era questa domanda sui diodi laser, torna fissato con questi diodi laser, i diodi LED. Ho detto, mi scusi una domanda, questa cosa intende lei per ottica, come si chiama, luce, aspetta non mi ricordo cosa cacchiera, roba ottica, fascio di ottico, di diodi laser e diodi coso, che differenza, cosa intende lei? Evento luminoso laser o LED, cosa intende? E le ho fatto la domanda a Pizzali, ho detto, mi scusi, come vuole interpretata? Riferita al singolo diodo laser o riferita alle frequenze, cioè di diversi diodi laser? Non lo so la risposta, mi ha detto Pizzali, che non avevo subito, aspetti che vediamo quando arriva l'ingegnere, lo chiediamo a lui, la formuliamo a lui la domanda, gliel'ho chiesta e lui subito vende lo grande, ma è chiaro, ha detto, no, guarda, non è chiaro niente, ci è riferito a un diodo singolo o a una serie di diodi? Allora si è rimasto così, cioè, vabbè, la prossima volta vuol dire che questa domanda la cambiamo, perché poteva essere interpretabile. Alla fine era un po' stravagante, si avvicinava e ti dava delle risposte, ha detto, guarda che io faccio tutt'altro mestiere, mi ha chiesto delle domande a me, cos'è il periodo, quello lì ho fatto, perché le ho fatto anche altre domande, era l'unico che parlava di lì. Ma queste cose lei le deve sapere, certo che lo so, che l'ho studiato, le ho detto la frequenza, il periodo reciproco della frequenza, non so manco cosa vuol dire di chi, come? Ecco, uno fratto frequenza, quello è il periodo. Ah sì, va bene. Ma ti dice puntato, quando chiedevi delle informazioni tu ti dava delle risposte per farti sbagliare. E per quello ho messo in difficoltà un paio di persone. No, ma io guarda, non mi sono mai fidato, soprattutto di quelli che sono di commissione, perché la commissione è lì anche per capire e vedere se i candidati sono per poter passare l'esame. E molte volte sono più balordi loro nel rispondere che un candidato che hai vicino, capito? Nel modo più assoluto, non mi sono mai fidato io, quindi sappilo di non fare meno domande fai a quella gente, meglio è, Robert, perché ti possono mettere in difficoltà. Mi ricordo anche a Franco, la stessa cosa, aveva fatto la stessa cosa, praticamente non mi ricordo che cosa gli aveva chiesto, comunque inerente alla legge di Roma, e gli aveva detto una cosa, lui si è fidato, l'ha scritta, e proprio su quella domanda, perché poi abbiamo fatto il confronto con chi era stato promosso, praticamente erano sbagliate proprio quelle due risposte che sono meno 5 punti, quindi ti chiudi a terra, capito? Sì, no, ma parlato con quello Pizzali, non si poteva parlare, è una persona abbastanza umile, quello è un presuntuoso, qua proprio non mi è piaciuto niente, poi ne arrivi a lei, perché addirittura in certi momenti era una gionfa, perché ognuno parlava, metti quella, fai quello là, rispetto all'altra volta che siamo andati, che ce ne avevamo uno addosso, 24 ore su 24, non ti faceva manco girare uno spillo, lui si è andato fuori e qualche commento è stato fatto, poi c'era quest'altro ingegnere, che poi dice un ingegnere civile, che quello ha dato una risposta a uno, dice metti quella, io ci posso chissà che volevo dicevo io, però molti hanno messo. Poi ha fatto una domanda che io ho chiesto a un amico mio che lavora alla Telecom, non è una domanda quella lì, può avere diverse risposte, infatti se capita con Pizzari se voglio capire la risposta esatta di quella lì, perché allora ci c'erano tre risposte, però io ho chiesto a uno della Telecom che si occupa di queste cose qua, di linee, beh, assolutamente, quella lì non puoi dare una risposta certa su quella cosa, dipende dal tipo di cargo. Ah, ho capito. di quel cavo. Ancora sono con queste domande che non sono inerenti allo statuto amatoriale, non ho capito cosa me ne frega a me, quale capo bisogna usare per la DSL, tutte queste stronzate, cosa me ne frega a me, la DSL è una cosa, le telecomunicazioni in servizio amatoriale è un'altra cosa, ancora non l'ho capito, vedrai se c'è di nuovo casino, devono togliere queste stronzate, devono togliere, devono parlare di normative e di elettronica generale, basta, non ce ne frega assolutamente niente di quanto deve essere lo spessore del cavo, la lunghezza del cavo da una centrale a DSL a una linea diretta, ma cosa me ne frega a me? Non lo so, ma dice il doppino telefonico, il cavo ideale di un doppino telefonico che impedenza deve avere? Deve essere 50, 300 o 600 la risposta. Tutti quanti hanno messo 600, io avevo messo 300, che poi alla fine mi hanno detto quella della giusta, tutti metti 600, metti 600, la giubbo giù che era sbagliata. E poi compressione dei segnali digitali, a cosa serve la compressione dei segnali? Vabbè, quella la sapevo la risposta. E poi lo sai cos'è l'unica domanda della normativa che hanno fatto? Lo statuto primario da che cosa viene identificato scrivendo? Dal simbolo maiuscolo, solo quella, l'unica della normativa era quella. Poi c'erano un paio del codice Q, una di queste abbreviazione internazionale, cosa voleva dire R, tutto il resto erano domande di elettrotecnica, ma molto molto avanzate. Ti so che riprendi? Un poco difficile. Molte le sapevo e qualcuna, io le ho risposto su 30, le ho risposto a 26, lui ha detto non rispondete se non siete sicuri, io ero così, ho detto me l'ha detto, però ho sbagliato con la domanda più fessa del mondo, quella della R, cosa voleva dire R, anziché dire ricevuto, mi è giunto in mezzo, invito a trasmettere. Da lì lo vero, maledetti. Comunque, 26 su 30, sei già alla grande, io penso che la terza sia fatta, un ripassino di quelli veloci, il tempo c'è, prima dell'estate te la togli fuori dai piedi, perché intanto guarda, non c'è due senza tre per tutti, è sempre così, alla terza, riferraffa, riusciamo sempre a farla franca, le prime sono quelle un po' più toste comunque. Hai la fortuna che ti capitino delle cartelle non molto difficili, allora va bene, ma se poi c'è qualche cartella dove uno tentenna, è chiaro che è sempre un pericolo. Vabbè, comunque, quando vuoi venire, vabbè, sono qua, mi chiami, stasera mi c'era Luca, c'era Benito, doveva salire anche Sandro, e invece non... ha detto che era impegnato. Ho finito tutto, ho fatto anche una basettina a parte proprio per fare i lavoretti, a Benito gli avevo promesso, sono ancora alle prese con quello di Sandro, comunque in linea di massima la radio sta funzionando molto, molto meglio, però ho degli allineamenti da fare, non mi piace, quindi ancora ci sto lavorando sopra, però almeno ammazzo un po' il tempo, dai, niente di particolare. Avanti Mauro. E infatti, ascolta, io sto uscendo un attimino, casomai se ci siete ci sentiamo più tardi, dai, non prima di cena, dopo cena, se ci siete. E ci sentiamo dopo. Ciao e ben sentite a tutti. Ok, ciao Mauro, ci sentiamo, dai, stiamo bene. Buon proseguo di fine domenica, buon tutto. E salutissimi a casa, se ci siamo riprendiamo dopo, altrimenti mi guardo un po' di sport e poi me ne vado a nanna. Io non ho riposato niente, neanche dopo pranzo, perché avevo alcune cosettine da terminare qua in radio. Avanti Roberto. Ciao Mauro, buon tutto, dai, ci siamo, già siamo qua sempre. Abbiamo monopolizzato un pochettino, Claudio, io direi fare di nuovo un giro a vedere chi è rimasto. Avanti chi è rimasto, il primo, chi c'era? C'era anche Antonello Compugno, non so se si è scappato. Avanti Antonello, se ci sei, se no avanti chi vuole entrare. No, sono fuggito, aspetta qualcuno che vuole entrare, chi è avanti? Mi senti? Sì, che ti sentiamo, ciao Benito. Ciao, buonasera, ci sono a tutti, sto provando questa radio. Sì, stai scendo bene per me. Vabbè, segnale basso, ti sento basso col 3.9, qui dovresti essere intorno a 7-8 con kHz. Radio 5 perfetta. C'è anche Giuseppe Lucino che è bianco. Auguare Robert. Sì, scusate per la durata della conversazione con Claudio. Avanti Giuseppe Leoncino. Alessio, buon pugno. Dimmi. Vabbè, come arrivo io lì? E basta, che tu quanto cosa sei, quanto bevi tu di segnale? Il comello vediamo sa che è un apparecchio un po' ristretto di Smith, un po' penso dove c'è 105 comunque. Comunque ti sento bene, perfetto e chiaro. Sta facendo bene con l'antenna. Un momento va bene come così. Oia, la carità. Claudio. Dimmi Giuseppe. Questione, a te quanto me ne serve? 25 metri, che hai? Di cosa? Di campo. Può vedere sui mansarda cosa c'è Giuseppe. Domani controllo e te lo dico. Già, perché se mi tocca andare a fusare e comprarlo, Oh vabbè, fammi vedere a me cosa c'ho e te lo dico. Esci a vedere a Benito. Vieni, ma l'hai appena accesa. Vieni. Oia, se mi stavo sistemando la sedia, come sta andando questa radio? Insomma, non è come stava andando qua, Tieni conto che la mia antenna è nuova, i cavi sono tutti nuovi. Lì non so come si è organizzato, però è non è molto alto il segnale. Guarda, tutto come è stato messo lì da te, qua, tutto come è stato messo lì da te, sto parlando con la sovranità, mi ha detto poco fa di parlare per fare qua, e qui la ricetta sta muovendo alla grande. Sì, sì, adesso cambio radio, voglio vedere se c'è differenza di segnale. Riprendilo, beh, vedi come ti arriva. Capa, vedi, ma il processore è inserito. Eito. Guarda adesso. C'è il processore inserito o disinserito? Dimmi, fammi le due prove. Guarda, così era disinserito. E così è inserito, com'è? È un po' meglio col processore inserito. No, io ti ascolto bene, il segnale non l'ho visto, fammi un po'. Guarda, 1, 2, 3, prova radio, processore inserito, processore disinserito. Ora lo inserisco di nuovo. Non è che cambi più di tanto, comunque il segnale c'è intorno a 9 qua. Scappa, positivo, dai. E sta iniziando anche a piovere, molto. Cambio controllo a me di segnale dalle tue parti, invece. 9 e 5, radio 5. Ok, l'amplificazione si sente o è bassa? Come ti arrivo di là? Radio buona, perfetta roba, non arrivi sempre, tanto l'avrei già detto. Ciao. Avanti, Alessio, tu non stai usando, sei 80. No, sto usando il 39, soltanto non posso usarlo. Senta, con quello, l'altra notte, mi è cominciato a piovere, è andata a torrentare la cosa, della televisione che è il primo canale. Devo smontarle per forza, mercoledì mattina devo guardare la fusione, comprare tutte le antenne nuove per piazzarle, perché l'ho aperta, l'ho dato una pulita, ma non ho... era perché l'aveva detto. Sembrava che avessi aperto un pozzo, figurati. Quindi l'ho asciugata un pochettino, ma non ho... come è piovuto, stavo pensando a quale. Evidentemente lo spinottino che c'è dietro crea dei problemi, c'è l'infiltrazione d'acqua. E quindi ho detto a quel che ho dovuto fare, ciò di fuori a Marezzone. Invece col 39 non ho veduta, manco una striscia. No, la radio è molto bella chiara. E il microfono cos'è questo? Quello che dice da gatto, di quelli che dice la voce. No, va benissimo, mi piace la modulazione, vabbè, se no non c'è studio, se è troppo vicino. Però la radio è bella chiara, pulita, non c'è nessun problema di nessun genere. Un attimo. Alessio. Via. Ciao carissimo, una piccola informazione, se tu necessiti di me. Riguardo diciamo un apparecchio veicolare Lintec AM550. Bianco un attimo per me, scusate. Come mai amplificato da Palmo, che cosa posso abbinarmi? Ci sono quelli della... che costano poco, avevo i cero, microfoni amplificati, vanno benissimo. Poi saranno tutti gli apparecchi, tutti quei microfoni amplificati in quegli apparecchi. Ho visto che... però devi fare un lavoro dentro, devi aprirlo, l'apparecchio, prendere lo schema elettrico e cercare l'LC. E una volta che tu l'LC lo trovi... sono regoli, però è che c'è bene anche con il microfono normale, perché pompano, beh, c'è una buona amplificazione con gli apparecchi. Ho capito. Va bene. No, diciamo almeno qualcuno ha valutato, dice se già bene così, quindi. Tu comunque, se c'è lo schema elettrico di quella che hai comprato, aprilo e c'è un trimmer piccolino, guarda che sono di quelli piccolini piccolini, non è più vicino al trasformatore, ma è sulla sinistra risulta, vicino ai finali, dall'altro finale. Ti controlli lo schema elettrico dove c'è scritto LC, ti controlli il trimmer, c'è scritto per dire VR10, VR36, quindi lo giri e vedi come pompa di radio. Ho capito. Va bene, riprendi Roberto. Chi so? Ehi, chi è? Leoncino sono, non ascolti adesso. Beh, non ci, Santiago 7 a picchi di 5 e vai, la radio è perfetta, bene. È una radio normale, ma non è amplificata, però va bene. Già va bene, abbiamo fatto quel lavoro con Alessio, con Pugno, già va bene per Alessio, là. Guarda, confronto gli altri giorni che ti ascoltavo a mezzo QRM, figurati tu, ci hai migliorato molto. Ho benito. Ehi Ale, anche tu ti sei salito anche di segnale? E beh, come sono salvato, sai quell'antenna lì ho dato? Quella che c'era in terra, te la ricordo, non si è venuto. Quella canna da pesca, quel di polo fatto in verticale che ho dato. L'ho messo appoggiato 34 cm dal muro. Come l'ho portato? Stai usando quella canna da pesca. E via. Sta forte quell'antenna, sta andando benissimo. E infatti si me la bazzucca, non è che siamo tariferanti, no, ma no, l'antenna della barca c'ha la stessa lavoro, cioè. Perché l'ho fatto uno tanto tempo fa e c'era un dipolo fatto dentro, basta, usciva solo così, infatti non c'ha bisogno di sulla massa, capito? Oh, ti ascolto benissimo, Ale, benissimo. Sei più su del QRM, ti ascolto bene. Oh, vedi. Dimmi qua. Con questa si inoltre abbondante, la radio è perfetta, mentre con l'altra si è un pochino più stretto, ma dipende dalla ricezione delle radio, va bene, ottimo per la truppa. Cappa, va benissimo allora, sono contento. E ti rendi conto che prima o poi quell'antenna la devi cambiare, perché mi sembra che hai già fatto la guerra a quell'antenna, si mette nuova, cavo e antenna. Se decidi di continuare l'attività è sicuramente migliori moltissimo. E positivo, no, l'antenna ce l'ho già, il cavo me lo prendo, mi prendo il cavo, perché avevo intenzione anche di prendere un bel po' di metri che quando ne ho voglia, se sono, cioè, se continua così il tempo me lo porto, almeno il cavo me lo porto dentro casa, ne ammetto già una parte. Il cavo io ne ho grosso. Ne ho grosso di cavo H100, no, ma non 213 o capito, H100 è un buon cavo, se ti serve vieni te lo prendi e così glielo mettiamo nuovo quel cavo, perché magari è in perdita ed è per quello anche che non vai come devi andare, perché qua già l'hai vista com'è, vabbè, la mia zona è molto più aperta della tua. No, forse 9,5 quasi, dai. E la radio è perfetta, bella, forte, chiara, a posto. Scappa positivo, dai. Prima devo vedere dove mi posso appoggiare lì, che non c'è posto, capito? Poi se c'ho il posto da appoggiarmi, allora meglio metto il cavo lungo come dico io, capito? Se no, gli faccio l'antenna e gli rimetto il cavo come quello che basta, là. E basta. Questo picchi di modulazione sono allucinanti, adesso prima di stare è fermo, adesso c'è quello che sta picchiando, i picchi sono anche a più di 9,5, ottimo con la truppa, va bene, vediamo se è rientrato Roberto, non c'è, io ho cambiato radio e non mi avete detto niente, evidentemente la radio è sempre la stessa, diciamo là. Sempre quella, la modulazione, sempre quella. Vabbè. Sandro non c'è, Sandro. Sto usando lo IA. aggiungiamo, con lo strumentino che avete detto poco fa, ti ho fatto vedere, che c'era anche tu, e tre tromelloni con tre tasti, col bypass. Sì, ho capito qua, ho capito. Già va bene. No, oh, volevo confrontarlo con il mio, capito? La prossima volta magari sale, lo porti e lo confrontiamo con quello dell'MFG, a vedere se è preciso, se è uguale come precisione, là. È positivo, dai, te lo faccio, tanto io non lo sto usando, te lo usi, là. Te lo usi, poi magari quando mi serve, se abbiamo qualche scambio buono. No, lo proviamo, volevo vedere se è simile a, come strumento, se è simile a quello dell'MFG, quello che hai visto da me. Perché poi ne ha anche uno Sandro, che però è dell'MFG sempre, però anziché il 948, quello come quello vicino, lui c'è il 945, che è leggermente più piccolo. Infatti quando sale le faccio portare anche quello, perché voglio rendermi conto se gli strumenti Dive MFG sono simili come precisione. Dovrebbero essere simili, però è sempre meglio confrontarli, qui abbiamo un riscontro, capito? Fatto positivo, questo è un Dive CNW419. Il 419 si è simile a questo qua, allora a 948 sono similari. Te lo ricordi, Antone, qual era? Antone voleva essere chiamato Simona. Giuseppe, sono tutti pari di gente. Sono qua, là. Non ci sei. Ho anche fatto le foto qua adesso, il baracchino, con quello per accendere sopra il mobile. Vedi, adesso ho superi bene il QRM, ti arrivano 9, Giuseppe, prima di 7, adesso sei 9, ottima modulazione, va bene. Va bene, là. Ecco, per quello che io adesso ho chiesto per la questione là, se dipende quanti cabine, quanti metrini hai, perché devo fare un lavoro con la legge, lo portiamo direttamente dove stavo prima, capito? Ah, quindi la mettete in alto l'antenna? No, diciamo, devo comprare, se mi danno quella questione lì, prendo la staff e 3,5 metri di palo, no? E poi facciamo quel lavoro, e poi vediamo tutto quanto il resto. Ho capito, sì, domani mattina guardo, Giuseppe, e poi te lo dico, ne ho anche di quello grosso per Benito, intanto io come comitato ho finito, non mi serve più niente. Ne ho un po' di metri, anche un bel po', anche ho beni di quello grosso, così devo cambiare il cavo, visto che c'è l'antenna così, che abbassa perdita, e puoi recuperare qualcosa anche tu, Benito. E' positivo, dai. Io faccio il QRT perché mi ha già chiamato, quindi ho dovuto per la sera e si è lamentata. Vabbè, dillo di avere un po' di pazienza. Lasciatela un po' accesa, vieni al limite, la spegni dopo, o se vuoi entrare dopo a vedere com'è. Perché più sta andando e più sta, si sta vedendo segnale radio. Tieni conto che anche quando magari arrivi da lavoro che vuoi entrare a farti due chiacchiere, arrivi, l'accendi e la lasci stare accesa, ti prepari, ti lavi, fai tutto quello che vuoi, in modo che poi sia già pronta la radio, capito bene? Ah, positivo, se vuoi adesso farò così, accendo, non arrivo, ma almeno è già calda. Ma non hai dato compare che la vaga si platteggia, via notti. Ah, io ci uso però non fa vita, è inutile la sorpresa. Vabbè, vecchia sta diventando, no, io quando sono qua già hai visto tutto acceso, anche se non parlo è tutto acceso, poi se sento che c'è gente, entro, comodo, cambio radio, faccio, bisogna usarla, altrimenti succede un casino. Va bene, dai, vai pure Benì, ci sentiamo dopo se coincidi, altrimenti alla prossimina, ok? Papa, ok, salutoni di nuovo, circolare a tutta la ruota, ciao, corretti da parte mia. Ciao, Benì, ciao, avanti, a noi. Claudio. E dimmi. Il capo è quello fino da 58, capito, non quello grosso. Sì, mio fino e grosso, Giuseppe. Quello grosso magari se serve a Benito, visto che lui c'ha l'antenna in un punto particolare, è quello fino perché almeno facciamo quel lavoro là con un sonarizzo e faccio quel lavoro là, poi vediamo un po'. E quando ho altri soldi, là, diciamo in una stazione come era prima, hai capito? Ho capito Giuseppe, non c'è bisogno di dire niente, ti ho capito, io quello che posso fare faccio, devo vedere quanto ne ho. Controllo e poi te lo dico, se ti imparano, perché non mi ricordo quanto ne ho, avevo usato, abbiamo usato degli spettroni per fare il dipolo, ma comunque ne avevo, quindi sicuramente qualcosa è avanzata, non c'è problema. Vabbè dai. Vorresti da, per, diciamo, bianco per me vado a fare un po' di carica e al limite la sentiamo dopo, dai. Ok Giuseppe, ci sentiamo dopo, qua è tutto acceso, dai, a dopo ragazzi. Infatti, in effetti. linea, ho eliminato tutti gli alimentatori piccoli, ne avevo uno a 25 ampere della Zeta Giro, l'ho dato a Luca perché gli ho fatto avere appunto un 140 e quindi aveva necessità di un alimentatore, anche lui era in un momento che non poteva acquistare molta roba, quindi ce l'avevo io, l'ho dato a lui, però ci vuole un alimentatore almeno da 20-25 ampere per far andare quelle radio già. Ok, ma dalla linea sua non si busca? Ma no, la linea sua lo fai un sacco di soldi, poi non è neanche bello, è piccolino, è una cosettina da niente, no? È meglio un alimentatore, questi alimentatori sono proprio di linea gli alimentatori, la ICO invece fa degli alimentatori particolari, o sono troppo bassi o sono troppo alti, non mi sono mai piaciuti già. E conviene comprare un alimentatore della Daiwa, vedi un po' qualche sito, qualcosa della Daiwa, non prendere quelli della ZG, della Proxel, qualcosa del genere. Sono anche belli quelli della Nissei, che li fa la Daiwa lo stesso, costano poco, sono buoni, capito? Vedi un po', qualcosa già si trova, comunque avanti, va bene. Sì, vai, anche di comprarlo usato, se ne trova qualcuno, cioè anche di comprarlo nuovo, ne trova qualcosa usato, perché io consiglio sempre quelli a coso, trasformatore, non quelli digitali, switching. Se ti serve poco spazio, cioè se hai problemi di spazio vanno bene, ma se hai possibilità usati quelli normali, classici, che sono molto più efficaci alle risorse, eccetera, eccetera. Quelli lì hanno sempre qualche problema, non hanno avuto, di rientri, eccetera, eccetera. Per cui se ne trovi uno anche vecchio, adattato, tanto deve averti con la persona lì, non te ne ha fatto nulla. Infatti non è che me lo devo tenere a mostra, lo so fa che nascono, non mi interessa nulla, l'importante è che alimenti diciamo le ampliazioni, anche quelle di vecchia generazione mi vanno benissimo. Un giro su internet, io quello che ho preso io era 60 ampere continui, ma ne può dare anche 100 quello, perché è sovradimensionato, senza vento, non è niente, ma è un mal ragione, pesa 25 kg, è una bizza. Nuovo hai preso, l'avevo usato? Un'occasione è usata, trovata, ma è nuovo, è come che sia nuovo, c'è una bizza enorme, è calcolato con quei componenti, può dare teoricamente 120 ampere effettivi, l'hanno ridotto a farlo lavorare per darne 60, per cui non scalda niente, lo puoi tenere attaccato, ci puoi attaccare tutto quello che vuoi. Ok, quanto hai pagato quello? Guarda, non me lo ricordo esattamente, ma è intorno a 100 euro, dai 90 a 100 euro l'ho pagato, ma quelli costano oltre 500 euro perché sono apparati da laboratorio, aspetta che Martello, non me la metto nel macco, non si dovrebbe far leggerlo qua perché ce l'ho sotto, mi sembra ICM, una cosa del genere. Infatti non la puoi sentire, alimenta anche altre cose, capito? Non è che alimenta solo questo l'apparecchio, potrebbe essere già un sacco di ampere, come se era il tuo alimenta tutto il resto, riprendila. Infatti io ne ho due da 50 ampere, sono 100 più una parte da 20, sono 120 ampere, io alimento tutte le radio, mica ne alimento una solo, capito? Io alimento tutte le radio, sono le ampere, sono più che sufficienti. Certo, non puoi schiacciare le portanti tutti assieme perché si siedono, che io ho due o tre radio che assorbono 19-20 ampere a portante fissa, quindi perciò però è sufficiente, ma non è che puoi usare 10 ampere con una radio professionale, non la fai lavorare così, capito? Ha bisogno di amperaggio, ha bisogno della sua potenza e poi ha bisogno di spingere sulla LC, quindi deve tirare la radio. No, ma questo l'avevo già vedotto, perché avevo visto il coso, quel catalogo Marcucci, però ho visto che funzionava, domani lo metto a 5 watt, lo metto e diciamo che la riesce a non assorbire, invece però la radio questa qui è una roba professionale, ci avrà altre cose, che ha bisogno di lavorare con quell'amperaggio, anche questo, perché ho tutti gli impianti, tutti gli schemi, mi ha mandato e niente, claro, non sono contento, l'ho appena posto, adesso devo raffreddare un pochettino, devo portare un sacco di roba, anche per casa, ho appena ripreso a lavorare, hai capito, però l'alimentatore ho sempre pensato di averlo buono. Vicino mi ho messo il coso, l'ho tutto pulito, quello sarai tu l'artefice più grande ricevitore, la lisgraffete cosa mi dice. Ok, poi ti farò sapere. Avanti, vabbè, non c'è altro nessuno? Lo so, io ho sentito da poco quel portante, poi ha chiamato Chioso. Come si chiama Gianni, mi ha risposto, non c'era nessun altro. Almeno credo. Facciamo un attimo di bianco. Avanti, chi vuole entrare in compagnia di Roberto, Claudio e Gianni da Muro. Davanti, se c'è qualcuno. Nulla. Ok, no, ma Gianni, gli alimentatori secondo me non conviene fare economia. Meglio avere sempre in più di potenza e non sbagli. Tanto già non si rovinano, ce li tieni sempre con, ce li puoi sempre utilizzare per qualunque altra cosa. Quello che c'ho io, la marca che ho detto, adesso l'ho visto bene, c'è una marca abbastanza conosciuta, adesso mi stavo confondendo con un altro che avevo. Meglio avere ampere in più, non li fanno mai male, perché poi tra l'altro puoi danneggiare anche l'apparato se inizi a coso, a tirare il collo. No, questo ho alimentato, lo sai che è stato comprato per bloccare all'epoca, c'avevo un Intec quando c'era Adriano Cao, un Intec 410, sto parlando del 1981, c'era ancora la Horizon, e così, avevo comprato questo e l'avevo sempre in macchina. Adesso me lo metto in casa, me lo metto per, e ci avevo in casa il primo alimentatore che ho comprato per il Capri 2 da Fusaro, che era 2 ampere che non bastavano mai. Il giorno ero in via d'Italia a Sassari, sono entrato in questo coro di Hi-Fi, che Usai si chiamava, proprio quasi vicino alle fornitori, e sono avuto questa roba che e l'ho comprato, c'è un ZG, ce l'ho tantissimi anni, però va bene per un pacchetto o da niente, per cui so che si vuole roba professionale, so anche, capito che sono un po' pesanti e non lo alzi come alzi questo, li prendi qua. Sì, sì, lo so, è un amico di Antonello, Antonello Alessio. Ehi, Adriano Cao, caspita, c'aveva un negozio in via Umberto prima. Ci ho comprato un sacco di roba anche lì. No, no, ma comunque te l'ha già detto Roberto, e Roberto c'è quello là, c'è. Non si scherza, quello è il migliore alimentatore al mondo, no? Non ce n'è alimentatori che possano superare quelli, non ce n'è sia come ampere, come tutto, ma anche come costruzione, sono degli alimentatori professionali quelli, sono alimentatori proprio alla grande. No, sull'alimentazione Gianni, non fare sconti, perché l'alimentazione è molto importante, devi avere ampere, deve essere un alimentatore possibilmente a trasformatore, perché io li ho avuto, guarda, io ne avevo 4 della Daiwa, di quelli a scheda, switching così li chiamavano, ma hanno durato poco, io uso grosse potenze, alla fine riscaldavano le schede, iniziavano a variare, da 13.8 scendevano a 12, mi hanno bruciato una radio una volta, è salito a 15 mentre stavo modulando, qui gli ho detto boh, tutto nella mondezza, 2 li avevo regalati, uno è fatto regalato a Giovanni Mistero, l'altro non mi ricordo a chi l'ho dato, e 2 li ho completamente proprio buttati via, manco a tenerli perché no, non mi interessava, e mi sono messo alla ricerca degli alimentatori di linea della Kenwood, dove io c'ho tutto Kenwood e Nikon, e ne ho trovato 2, uno l'avevo comprato da Franco Verca 1 PS50 della Kenwood, e gli altri 2 li ho trovati su internet, li ho presi subito immediatamente, li ho pagati 120 euro l'uno, usati, però sono nuovi, vanno bene, e mi alimentano tutto senza problemi, proprio alla grande, quindi come ti ha detto Roberto, senza risparmio, perché altrimenti è un casino. Avanti Roberto. Sì, poi l'alimentatore è la cosa fondamentale, l'alimentazione è la, prima di tutto, poi iniziano ad andare il ronzi, rientri in radiofrequenza, prendi la testa, ti mantieni la testa per niente, non vuole spendere un po' di più e avere un alimentatore sovradimensionato. Questo che ho io è una bomba, io avevo il 25 ampere ed erano 25 ampere effettivi, avevo anche 30, però ogni tanto si attaccava la ventola eccetera eccetera, e questo non è di ventola, questo è un armadio enorme, detto c'ha 7 transistor che possono dare effettivi 120 ampere calcolati, però senza tirare il collo, perché per gli alimentatori che hanno i 30-55 ne ne mettono 2 o 3 e te li tirano al collo per far tirare ampere, però sono strozzati, nel senso li tirano troppo. Questo invece niente, tu lo tocchi, è sempre freddo, io non ho mai visto scaldare, niente. Mi sta facendo tribunale, c'è questa alternata che non riesco a capire da dove Alessandro, non ti mattare un gabbo che non è la radio, non è assolutamente, io alternata non te ne sento, ma c'è la ricezione questa alternata. Io mi sono messo anche in cuffia, adesso sono in cuffia per sentire un attimino, vorrei che fosse questione di antenna, di ricezione, l'umidità, Ora in cuffia ti porti dentro qualsiasi tipo di rumore, sai anch'io quando vado in cuffia i rumori che sento, anche di RF, non me ne preoccupo perché intanto sono rumori che tu senti solo in cuffia, perché la tua modulazione è perfetta, non si sente niente, Sandro, più di una volta a me alcune cose mi fanno dannare, però lascio perdere perché intanto non serve a niente, l'importante è non c'hai in trasmissione rumore alternata o cose del genere. Tu Robè senti qualcosa di Sandro? Ma prova a parlare, fa. Ok. Non lo so, tu già lo sai, certo che io mi macino la testa, poi fino a risolvere il problema mi dà fastidio, cazzo. Mi dà fastidio. Adesso provo. Alimentazione non penso, perché alimentazione va benissimo. Sta assorbendo quasi 10 ampere. Picchi sono positivi. Non sento niente qua. Gianni, tu senti qualcosa di rumore di Sandro? Io sento solo la ventolina, sai, basta. Sotto, diciamo la modulazione non è bellissima, però non so che apparato sta utilizzando, pettino nasina la sento, però è chiara, niente da dire. Ho visto 447.28, comunque c'è 40 watt in AM tira fuori, l'apparato 100 in banda laterale, sto guardando Gianni, per cui c'è un pezzo proprio al limite se lo metti a massima potenza del coso, perché basta dire fare la furba per sapere quanti ampere assorbe. 40 per 13, no, 10 se proprio pochi sono, sarebbero qualcosina in più. Ma l'ho diminuito di parte, ma se ancora lo diminuiamo un po'. L'ho diminuito perché mettendolo a zero crappa a 5 watt così. Cosa? Mettendo il regolatore del power. Da 10 a 40 watt, a 0 è 10 watt e al massimo 40. Per far vedere all'epoca che ci sono i sentire in FM invece con l'apparato, vediamo un po' come va. Tranquillo, Roberto, 10 watt, non gli darete la potenza, però si sudi. Torniamo in AM, ci siamo? Io ci sono, ciao anche a Luca. Mi sentivi in FM, roba sì? Ciao Lugredo, ho dovuto spegnere, infatti ho fatto una M, sono messo a tutto qua, mi arrivano 960 a tutti, figura dei due, mi aveva patrulli, ho paura che se rompa lo strumento, siamo troppo vicini. Infatti io ti attimo, io ti attenuato, con 330, con l'attenuatore già funziona. No, sono tornato a questo perché Noiesio è troppo rumoroso, troppo rumoroso. C'è qualcosa che non va, la devo togliere i piedi. Ciao Lugariere. Ehi, noi, eccomi qua. Allora. Ciao, ma non sono che vi fa la regolazione dei watt tra con 140, come va? 140 fa regola in FM. Regola in FM. C'è la regolazione in FM, anche in banda laterale ce l'ha. Non abbassare i watt, se no scalda troppo. Perché ti dà tutta la potenza e quindi te la devi regolare. È così, tutti i 140 sono così. Tutti, anche il 430 è così. Dovevo abbassare. E comunque il trasporto, dai, così lo facciamo la regolazione là. Quando lo salga, pompa. Allora, questa qua, portante muta è 10 watt, quasi 10 watt. Là, e sale sui 50. Neanche, 40, dai. E ce l'avremo pompato. Claudio. Misha. Con l'altro bike, non con questo, tu ce lo so qual è questo, con l'altro ancora. Pensi che cambi? Oh, attimo, cazzo, al telefono, vai, dopo subito. Eia, secondo me sì, Sandro. Lo vuoi provare? No, ehi, cazzo, mi cacciolo. Mi cacciolo. Ma hai capito quale? Dove è qua? No, quello che sta arrivando. Dal giorno alla notte cambia. Sì, ok, dai. La prossima settimana dovrei averselo, così proviamo, vediamo un attimino. Qual hai preso? Il DM100 ce l'hai? Il 200. Il 200 superiore, cazzo, il 200 è troppo bello. C'è una dinamica, quel microfono, Sandro, ha una dinamica che è una cosa pazzesca, troppo bello. Vedrai come cambia. Perché l'MD100, quello che c'hai tu, è praticamente simile all'MD1B8. Qui hanno fatto l'MD1C8, che è quello preamplificato. L'MD100 monta la stessa capsula dell'MD1B8, mentre il 200 c'ha la capsula dell'MC60 ceramica, cioè in porcellana, capito? Invece l'MD100 ce l'ha ceramica, quella ce l'ha in porcellana. Ok, dai, vabbè, vediamo un attimino come si comporta. Ehi, poi ci mettiamo molto, mia. E tanto anche per sera non c'era spazio perché c'era Benito e Luca e stavo facendo la radio loro, la scrivania, quella che c'ho, non è piccolina. Ma ci organizziamo, sali e facciamo letteratura qua, non c'è problema. Ehi, esatto. Ok, Gianni. Eccolo qua. No, ma sta andando bene, sta. Stasera ti ascolto benissimo, ti ascolto. E poi siamo passati in FM, quindi quello lì, proprio l'apparecchio è fatto per quelle bande lì. Ma sono contento lo stesso, no? Non mi dispero. Ok, non bene, prendi. No, già vanno bene, niente da dire. Lo volevo dire, faccio il discorso, boh. Mi sono quasi dimenticato, vai qua. Ok. Sì, vabbè, se passi dietro a macinarci la testa, cazzo. Vabbè, tutto questione di passione, dai. La passione porta a questo, almeno chi ha la passione ti porta, diciamo, a studiare, a fare, in compagnia bella e tutto quanto. Ok. adesso mi sto organizzando, però niente, intanto l'apparatino piccolo ce l'ho, metto una piccola antenna in macchina e la mettiamo anche in macchina, dai, così solo che il dottore se non ne ha voglia di svegliarsi, fatto fare e in stand-by. Vabbè, lì ancora un po' di pazienza per sistemare Giampaolo, poi vedrai che un po' di gente già entra anche al produttore, ce l'hai. Io ho già dato il mio input a tutti, pian pianino riesce a organizzare, anche qua a Sassano, non è che siamo tanti, però vedo che nel 10 è sempre pieno di gente, quindi la gente c'è, sta modulando, fa piacere parlare, discutere, quindi pian pianino anche il produttore vedrai che già si mette in carreggiata, sa, non c'è problema, insomma stai facendo una cosa alla grande, dal baracchinetto alle radio e adesso anche in macchina. va bene, se no mi appena pronto quello là, microfono normale, si zacchisce in macchina, problemi non hai, Sandro, eh? Così per sentirsi qualche volta, capita magari che sia Sassari o qualche cosa tutto fatto, però mi tocca, quello là si tiene di da parte, si fa riscaldare ogni tanto, si tiene come tipo esemplare, come pezzo d'antiquariato e basta, dai, tutto quanto, no? Lo fai adesso, io ho spedito tutto, quindi io penso fra un mese di avere la patente, di avere tutto, quindi insomma mi piace anche essere tranquillo, capito? Tutto lì. Ah sì, perfetto. Sai, Robè, che Sandro c'ha l'esonero dall'esame, eh? Hai visto che fortunato che c'ha il diploma militare di radiotelegrafista navale. Mi ha lui, quindi è fortunato, diciamo, se avrà studiato, cioè ci sarà anche impegnato per averlo. Ma non ne ho saputo neanche niente io. Non sapevo neanche niente. È successo così parlando con Claudio, poi se guarda che tu hai fatto il professore informato, ho fatto il giro. Ho già consegnato tutto, sarà già cos'è, settimana scorsa, mi sembra. Nel raggio di un mese mi ha detto, dice, che dovrei concludere tutto quanto. E visto che la passione c'è, e tutto quanto, diciamo che è via. E quindi la sfruttiamo anche perché voglio stare tranquillo, diciamo, tutto lì. Certo, prima di tutto quello. Vabbè, ancora non hanno fatto l'esonero per quelli che hanno un diploma di carrozzieri. Davvero, se no era già pronto giù. Già scioccato le brigate, guarda, mette le immagini. vabbè, dai, comunque, so che sei all'altezza, quindi non mollare, perché se ci facciamo un giro di conti a Sassari, forse io sono uno di quelli pochi fortunati, ma può darsi anche che mi era capitato, adesso mi ricordo, ma non era molto difficile il mio, il compito, ma mi ricordo quando andavano nell'era mia, 93-94, 95, immaginati una volta, nel 95, mi ricordo sempre la sessione di maggio, un caso in vera la morì, 120 candidati, 120, allora era il boom, 120 candidati, ne hanno promosso 4, 4, se lo dice 124. Già lo so, nell'ultima sessione nostra su 24 ne hanno promosso uno soltanto, era un radiotecnico di Siliqua, non so, di Radio Compresa. Cosa a Roma, l'ultima sessione che hanno fatto di maggio erano 110, e lì si è presentato un ragazzo, lo stavo leggendo, un ragazzo di 13 anni, ha fatto l'esame perché dice per non farlo rimanere male, anche, e hanno voluto chiedere al ministero se era possibile, perché è passato questo ragazzino, non poteva far leggere, non lo puoi fare per avere 16 anni, però volevano fare un'eccezione alla regola, eccetera eccetera. Un attimo, però io ho fatto che qua sta diluviato di brutto, 4M9 addirittura, e sta lampando, dai, fatto un attimino. Ehi, Sandro, va bene così. Avanti Gianni. Ok. Non so se non ho mai guardato nelle stazioni radio o dei carabinieri se c'era il telegrafo quando entravo. Se non dico se con noi mi faccia un corso l'attestato come lui dentro, anche io così mi danno la patente, no? Un po' di roba la devo sapere, non c'è niente da fare, non mi piacciono le cose, cioè, ci voglio bagnare il dito, come se lo sta bagnando Roberto, verrai Roberto, alla prossima andiamo alla grande. Come stai tu Claudio, non c'è le due, se stai la destra vedo la crema. No. Per volte io gente che la fa l'esame, quando via con le partite del camion, del fumo, gente che sapeva guidare meglio di me, e tutte queste belle cose, anche nella scuola guida andava bene, e poi arrivava lì e si impappucciava, e finiva la volta. Sai burgoso che arrivi un bel stanco perché ti alzi presto, c'era una nebbia qua per andare a Cagliari, ho fatto almeno un'ora, c'eri proprio stanca, sono arrivato sull'acqua a Cagliari, poi può essere anche una concentrazione. Ma io l'ho sempre detto che è stato sempre uno stress per tutti, una cosa vergognosa, perché potevano benissimo fare l'esame città per città, cioè una città come Sassari di quasi 200.000 abitanti, con una sezione ARI competente, con direttivo, presidente, consiglio di amministrazione eccetera, io credo che uno strappo alla regola la potevano anche fare, capito? Dico che quelli di Cagliari sono sempre molto più di noi, sicuramente, ma ci sono stati dei periodi, degli anni dove la provincia di Sassari ha coperto quella di Cagliari con le sessioni d'esame e mai si sono degnati di venirci incontro, capito? Mentre quelli di Cagliari, Assemini, Quartu, Quartuccio, Bingo Bongo sono tutti lì a 10 km, 20 km, quelli più lontano sono quelli di Oristano che sono sempre più vicino di noi, sempre avvantaggiati, tant'è vero che sulle sessioni il 99,9% bocciano sempre quelli della provincia di Sassari, non si capisce mai il perché, o perché non ci possono vedere, o perché insomma c'è qualcosa che non funziona, ecco, c'è qualcosa che non funziona, però è vero anche che potevano venirci incontro e non dico di venire direttamente a Sassari, facciamo la metà strada, facciamolo alla sezione area di Macomer, facciamo, non so, alla Basanta, c'è la sala lì dei congressi alla Basanta, si fa lì e si fa a metà strada, intanto cosa cambia? Lì lo fai in una sala solo perché è la direzione generale delle poste, ma cosa me ne frega a me? E scende la commissione da Cagliari, si forma il direttivo della commissione, presidente, vicepresidente, il membro della sezione ARI competente per il controllo di tutto, basta, secondo me si poteva fare tranquillamente, non hai mai fatto Robert, mai. Poi l'hanno compreso la figura del Ministero della Difesa, io quella persona lì non ho capito cosa ci sta a fare, è venuto quando una via gana e c'era un marinaio, un maresciallo di marina, io non ho capito la figura, cosa serve quello lì, posso capire il rappresentante dell'ARI perché vuole verificare che tutte le cose vengano ben fatte, ma cosa vi va di Ghisso, io proprio non ho capito. Ah, quello di divisa militare? Si va della chiacchierata, si raccontano i fatti loro e se ne va. Quello è un sottufficiale di Cagliari, della Capitania di Cagliari, ed è, se tu guardi, è un radiotelegrafista della Capitaneria, quello lì. Evidentemente ci vuole, non lo so, ci vuole, non ci vuole, è amico di qualcuno, quindi rappresenta chissà che cosa, ma c'era anche la volta che io accompagnai a Franco, dove in quella sessione fu promosso Vittorio, la moglie e la figlia, Giancarlo, maresciallo e ho visto il coso, perché io ho fatto il militare in marina, quindi avevo praticamente gli stessi gradi suoi come posizione. C'è il telegrafo disegnato, capite? C'è l'agile del telegrafo. Sì, no, metto in dubbio, però dico, ormai telegrafia non ce n'è più, non è più conosciuto, diciamo, è stato abolito della prova di pratica di telegrafia, per cui la figura di quello non so dove ci possa entrare, perché tra l'altro è l'unico che non fa niente, si siede lì sui bordi, si muove a parlare del partito, gli altri, quello dell'aria si alza, si mette a guardare come si stanno svolgendo i cubi, quello proprio del coso di elettrotecnica non credo che ne sappia per sé niente. Poco ne sanno, vabbè, non è che hanno tutta questa preparazione alla grande, sono così messi per figura professionale nell'ambito del discorso del ministero, basta, ma per il resto non è che sappia chissà che cosa. Io mi ricordo quando ero andato io per dare la seconda patente, perché avevo la speciale, infatti ne ho due diplomi, uno è WZ-URT e l'altro ISDR-FB, e ne ho due perché quando poi mi hanno esonerato, che ero andato la prima volta, c'era un sottufficiale radiotelegrafista. Sì, capa. Vediamo, avanti Gianni. Ok, si vuole vedere che quale commissione rappresenta qualcosa, non è quello. Molte volte sono robe come sta dicendo tu, quello che ho telefonato, che va uno magari che non è preparato come te, ma riesce a beccarle, hai capito così, scusando la frase, di culo le cose, come ce ne sono molti per le patenti della macchina che non hanno mai, le fanno così come tipo la schedina, le domande le altre, quanto mai che è studiato ne sbagli così quasi nulla, perché ti viene il dubbio lì in sede d'esame che sempre la tensione è alta e capito e non passi mai, se parlano tu per tu affrontando un discorso, quello lì esame non è te. Ma quello che era accanto a me sicuramente ne sapeva meno di me, perché ti riferisco che ero anche io, quando avevo già finito, gli ho detto mettici queste tre che lui non gli aveva scritto, aggiungici queste tre giuste, e lui, ma se si ho detto certo sono sicuro, le formule non c'era da sbagliare, poi coincidevano i risultati, e altre due le avevo date, mi ha chiesto qual era la risposta, gliela avevo date prima, e poi gliel'ho date io a quello lì. Cosa bella che era proprio ignorante, non sapeva cosa voleva dire classe A, classe B, perché c'erano studi di amplificazione. Che cosa hai detto? Oppure cos'è la modulazione di ampiezza? C'era la risposta, non la sapeva. Ho detto questo, l'hai messo a casaccio, e l'hanno andato, è riuscito a passare, infatti è stato stupito anche lui, comunque buon per lui, dai, no? Mi dispiace soltanto che io ne ho sbagliato una proprio per forza, per trascrizione, quella più fetta di tutti, cosa voleva dire R, quella lì mi dispiace, vabbè, non so se avrebbe influito nel risultato, però era proprio la più fessa di tutti quella come domanda, chiunque l'avrebbe posta. Lì è disattenzione tua, Robè, dai, è disattenzione tua, sono convintissimo che la prossima volta stai più attento e la cosa sarà sicuramente positiva. È così perché è sempre la grande, dai, è sempre la grande. No, una cosa, come avevano detto, la prima risposta che ti viene in mente è che quella che sei sicuro. Non ti venivano dubbi perché se inizia a matare un gabbo, sbagli. E è successo così. Due domande io ho fatto così. Una era quella, la risposta ma nel vostro in testa. No, guarda che è sbagliata e non c'era giusta. E poi questa della sigla abbreviazione R. Ho già risposto giusto, poi chissà per quale motivo ho messo l'altra. Perché hai creduto magari in qualcuno, in qualcosa che secondo te poteva essere valida, invece era totalmente diversa. Comunque ti ripeto, secondo me, come dico io, sulla terza volta è così, io ti ripeto, se andiamo a fare un giro di conti a Sassari, dei radioamatori esistenti che ci sono, forse 3 o 4, una, due volte, ma gli altri 5, 6, 7, anche 8 volte senza quello che conosci tu, quella è una cosa storica. Avanti Gianni. ti ripeto, allora il problema di questo fatto dell'elettronica è molto vago, per dire parlano di elettromagnetismo, propagazione e cose del genere. Noi l'elettromagnetismo, per dire, ci mettono cose, per dire, i diodi laser, io in nessun libro ne ho trovato di cosa sono, cosa servono, ci ho solo così sentito per dire, basta, cosa, su che frequenza lavorano e cose del genere. In nessun libro di radioamatore ne ho visto, ne ho diversi di libri di sedute di esame, di test, ho fatto un sacco di test in questi giorni su internet, centinaia e centinaia di domande, alla fine le sapevo tutte, facevo sempre risultato, tirare il risultato finale, dice eccezionale, eccezionale, non sbagliavo più niente. Poi quando ho fatto una domanda sui diodi laser, non c'è nessun testo, oppure su compressione di segnali digitali, quella la sapevo la risposta, però in che libro di elettrotecnica c'è di cosa? Di amatori, io ho quello di Nerio Neri, che è uno dei più, diciamo, più conosciuto, poi ne ho comprato un altro, poi c'ho delle enciclopedie, non c'è scritto da nessuna parte di questo tipo di cose, di compressione di segnali digitali, cioè io l'ho risposta perché la sapevo, però sicuramente se me ne mettevo un'altra sulle cose digitali non avrei risposto, è talmente vasto l'argomento, non lo so, ma è quello che mi dispiace, tu studi, però quello che hai studiato magari non serve a niente, perché ti fanno altre domande su tre cose, e se fosse in precedenza, cioè come dovrebbe essere secondo me, soprattutto normative, codice Q, abbreviazioni e cose del genere, o qualche antenna, mi sta bene, però non puoi fare una domanda sulla normativa saluto primario e secondario, il bu, unica domanda, poi quella del codice Q ce n'era una e poi sull'alfabeto fumettico e una sulle abbreviazioni internazionali, il bu, tutto il resto era di elettrotecnica, cioè io dico la cosa importante sono le normative, devi sapere dove non puoi andare, che potenze puoi utilizzare, piano delle frequenze eccetera eccetera, cosa me ne frega a me che una cosa, come si chiama, la trasmissione dei segnali digitali si misura in un quel tipo di come si chiama di indicatore o eccetera eccetera, oppure un circuito che ha quella frequenza di risonanza eccetera, quelle sono cose troppo evolute, io infatti l'ho detto guardi che io faccio tutt'altro mestiere, perché lui stava parlando come se stesse parlando con un ingegnere, ho detto guardi che io faccio tutt'altro mestiere, perché io ho fatto un'osservazione sui diodi laser, gli ho detto spettro di frequenza, cioè ho chiesto delle cose cosa volevano dire quelle frequenze lì, e lui ha detto no, è riferito al singolo dio, ho detto sì, ma me lo stai dicendo adesso, era molto ambigua come domanda, infatti lì c'era quello Pistalli che ha detto neanche io la so questa risposta perché può essere interpretabile, gli ha chiesto, ha detto aspettiamo l'ingegnere e vediamo cosa ci dice, figurati a che livello erano le domande. Sì, lo so, hai capito, perché io l'ho parlato anche con il Pistalli, sì, sono le domande le formuliamo noi, perché gliel'ho detto anche di questi libri, mi ha dato subito ragione sul libro di radiotecnica per animatori, però non si è molto pronunciato sul libro dei test, che le domande le formuliamo noi, ecco perché io sono rimasto anche un po' perplesso, certo, se io mi studio un libro dei quiz, ecco, poi vado là, secondo come ti formulano la domanda loro, magari ti mettono fuori strada, e riprendila. Infatti il problema è quello, Gianni e Roberto, che in molti casi è successo che il presidente di commissione o l'ingegnere ha detto alla vigilanza, che è quello che praticamente gira per i tavoli, controlla che tutto proceda bene, qualcuno le fa qualche domanda e lui con molta tranquillità risponde il contrario, per vedere se effettivamente il candidato è attento, se ha studiato, se quello ci casca e scrive ciò che gli ha detto, lui sbaglia, come è successo a Franco, come è successo a la prima volta a Coso, a Giovanni, erano tutti molto preparati, mi ricordo, però c'era questo deficiente che tu le chiedevi le cose, lui con molta disinvoltura ti rispondeva diversamente, chi non era attento diceva, ma io, come l'ha detto lui, sì, ma non è detto che te l'ha detto lui, è giusto, solo il tuo medico di famiglia ti dice prendi queste pastiglie perché devi guarire, ed è un controsesso che ti dia delle cose per non farti guarire, ma a lui non gli frega niente, lui è lì, diciamo che me la futti, vediamo, io le dico così, poi se sta attento si accorge che gli ho detto una fessidia, se non sta attento vuol dire che non ha studiato, ecco, tutto lì, capito Roberto? Sì, sì, ma almeno quel pizzale è stato onesto in una domanda che le ho fatto, che le ho fatta apposta la domanda per vedere cosa mi rispondeva, per eliminarne l'altra, ne avevo due dubbiose. Però ho fatto capire come che volessi rispondere a quella domanda, il vero. Non sto dicendo che quella è la risposta, per me dopo così ho risposto io, per cui sapevo che era l'altra. Però quel balordo invece ti dice, ti mette in equivoco, cioè ti fa delle cose per metterti ancora di più in difficoltà. Quando gli chiedi la domanda, la spiegazione, ti fa parlare, per dire, stiamo parlando di questi dio di lance, ha fatto, lei non lo conosce il compadischi, che frequenze usano i compadischi, il lettore laser, la lente del lettore, ho fatto, sì, ma noi stiamo parlando di ottica qua, poteva essere anche una lampada, una cosa, possono essere, ci sono delle lampade laser con diversi, con che lavorano diverse frequenze, allora lì l'ho messo un po' in difficoltà, e lui va a farsi vedere, allora lei non lo conosce, qua è riferito a un'unica fonte luminosa, ed è chiaro, ho detto, no, non è chiara niente la domanda, come me l'ha impostata lì, allora lui si è un po' risentito, lì quando tu chiedevi delle informazioni, tu vai a tipo trabocchetti. Lì ci vogliono giocare, perché lì ci vorrebbe un giorno di luna e sole, capito? Mi ricordo sempre quando ha dato l'esame di telegrafia, noi eravamo tutti lì che aspettavamo, finalmente Gianni ce l'ha fatta, perché come scritto l'ha sempre crepato, però detto, questa volta do anche tutto completo, e si era seduto, abbiamo visto cuffie e testa e vamos, inizia a scrivere tutto, ma Gianni, perché noi eravamo già arrivati, quindi potevamo assistere. E Gianni Silveno ha detto, isho Maria Gara, questa volta è fatta, sono tutti contenti. Alla fine finisce il compito, tutti in piedi, consegna anche lui. Mi ricordo c'era un tenente di vascello della Maddalena, radiotelegrafista, che è quello proprio che lui trasmetteva 40 battiti al secondo. E quindi velocissimo, e Gianni Crivia alla fine l'ha consegnato tutti, molti doni, molti no, e lui non lo chiamava, allora tutti sono usciti, ha detto, Gianni venga, anzi dal banco stesso si è avvicinato alla scrivania e ha detto, ma mi dica una cosa, si può sapere che cosa ha scritto? E Gianni ha risposto, se non lo sa lei che stava battendo, se più lì ce lo so io, tu casino hai finito. Allora, ma alla fine mi dà biglia alla Russia, infatti io gli ho fatto tutti gli auguri, arrivederci, tutto fatto, non mi dà giubilare, c'era uno sulla biglia da cura, ma cosa mi ha fatto, tanto a mangiare non me ne dà. Io mi dissesse un po' che, mi ha portato mia moglie e le bambine, ci abbiamo fatto un giro pure a Cagliari, si paghisse. Certo, magari ho perso mezza giornata di lavoro, però, ho detto dai, mi ho fatto un giro, dai. Diciamo, non è che mi sia preoccupato più di tanto, ma c'era gente che se l'ha presa proprio a cuore, c'era questo, 6 volte che ci ritornava, là tu, a me un ignorante, se lascia vedere aveva sbagliato solo una domanda, ha detto ma vada a bilirare la gente, poi ho visto due, veramente quelli erano bravi, non lo so, quelli sono passati, erano zitti, ho visto l'hanno consegnato subito il compito, quello che a me proprio era un ignorante, uno di Oristano, proprio ignorante, quello deve andare in chiesa e dire grazie a quello che c'avevo vicino, sono promosso, che gli ho dato domande dette proprio che non le aveva risposte e gliel'ho detto io, mettici queste tre, e poi le altre tre me le aveva chieste e gliele ho suggerite. Vedi, a volte è così. Non mi ricordo, ero contore, contore alla Verde, eravamo seduti uno vicino all'altro, inizialmente eravamo un po' in grossa difficoltà perché c'erano delle equazioni che non finivano mai, non proprio una cosa allucinante, guarda, io mi ricordo l'avevo fatta in brutta anche assieme a Tore, perché sì, non potevi parlare ma comunque ti potevi consultare con quello vicino al banco. E non le bugavano i beri, nonostante io le avevo già fatte, vabbè, Tore è molto più grande di me, quindi non si ricordava più, però io me la ricordavo, ma non finiva più, non edificio, ingegnere idraulico, e quindi l'ho trovato. E fortunatamente lui era dietro di me, mi ha visto un po' in difficoltà, mi ha toccato col piede la sedia, mi ha detto ma che problema c'è? Adesso non riesco a chiudere questa frazione, boh. Eppure mi sto rifacendo tutti i calcoli e sembra a posto. Mi ha detto in quale sì, l'ho detto nel terzo passaggio, proprio quasi a chiusura della frazione. E mi ha detto leggimi un'altra un'altra Roberto, un'altra un'altra, anziché aprire la tonda, no? La frazione che conosce, ho aperto la parentesi quadra, ho fatto il calcolo e poi ho invertito, ho chiuso la quadra e ho riaperto la tonda. E mi ha detto, mi ricordo sempre, mi ha detto guarda che hai sbagliato. Visto che sei in brutta, correggi, la fai così o l'ho chiuso immediatamente. Ma fortunatamente avevo a lui che mi ha messo un po' di difficoltà, molto bravo, è un cranio in matematica che era una cosa allucinante. Ed era andato alla grande, anche perché poi non essendo acquiste il compito andava fatto tutto in brutta, poi ricopiato tutto in bella senza correggere, senza cancellazioni, senza niente come adesso. Però dovevi allegare anche la brutta coppia, capito? Dovevi allegare anche la brutta coppia. Infatti quando poi mi ricordo il genere del biglio lo telefonai dopo qualche giorno per sapere come era l'esito, ma se ne è accorto di quell'errore, ho visto la sua brutta coppia, quasi quasi ci lasciava le penne, mi ha detto, ma se non ricordo sempre, era un po' stanco, distratto, e quindi, comunque invece non era, io ci sarei andato proprio di brutto, avrei mollato perché non mi stavo innervosendo. Fortunatamente mi ha aiutato questo cervo dietro, quindi tu hai aiutato a quello, Guido Bromosso e tu bruciato, vabbè, non è successo niente, vedrai la prossima andrà meglio, vai. Ascoltando, no, perché io ce l'ho sul corso dei test, non so se tu ce l'hai nominato Giancarlo, quella roba dei test, quello lì è clamo. Tu non so se c'hai quello che ha Roberto, che praticamente si acquizze, però prima noi c'erano tre buste che la commissione praticamente tirava fuori dal libro dell'esame, tirava fuori un testo d'esame, c'erano praticamente tre domande, una poteva essere di normative, l'altra poteva essere costruisca al candidato, cosa ti posso dire, un trasformatore da 40 ampere, quindi deve sapere tutti i componenti che ci andavano in questo alimentatore, eccetera, oppure un circuito stampato, insomma che cosa c'era un circuito stampato, che funzionava un circuito stampato, di quale componentistica apparteneva al circuito stampato e così via. E tu dovevi poi calcolare tutti questi cosi, perché non è che c'era domanda e risposta come adesso, se andiamo in fondo, a quiz è molto più facile rispetto a come era prospettato negli anni passati. Perché era veramente un esame di Stato, come quando tu ti stai diplomando, capito? Quindi c'è un compito che tu devi svolgere e in base a quel compito c'è il voto. Qua invece sono delle cartelle dove tu devi, c'è cioè, domanda e risposta, devi azzeccare domanda e risposta, quindi se c'è un po' di attenzione riesci a fare qualcosa in più rispetto a prima, capito già, però è sempre tolto fuori da quel maledetto libro così chiamato dove la commissione si riunisce, tira fuori tutte le cose necessarie che servono e poi fa le cartelle, stampa le cartelle per fare i quiz. Diversamente, quando l'ho dato io era proprio a compito scritto, quindi dovevi fare un compito scritto e portarlo a termine, dopo poi loro ti davano il voto in base a quello, capito? Formato da due resistenze collegate insieme. se ti leggo le domande che hanno messo a lui, senti questa, ma veloce. E quanto è il fattore qualità di una frequenza a 1500 kHz se la l'indutanza è 0,2 e la resistenza è 5 ohm? A quei livelli lì erano le domande. Oppure ad una capacità C è applicata una corrente alternata di 175 mV con una frequenza di 18,68, la corrente vale 25 microampere e devi trovare il valore della cosa, della come si chiama, della capacità. Cioè, a quei livelli lì erano le domande. Oppure ti fanno vedere un coso, sfasamento, corrente e tensione, indicare nel grafico quanti gradi di sfasamento ci sono. Cioè, a quei livelli lì, quelle sono serie, te ne faccio miliardi di quelle domande lì. Io ti dico, le domande, qui secondo me arrivano da, sono tutte uguali in Europa, perché io ho scaricato da internet una sessione di domande, ce ne sono 500 più o meno, 500-600 domande, forse di più, l'esame dei radioamatori in Svizzera. Le stesse domande con gli stessi valori, almeno una ventina le ho trovate in queste due sessioni di esame, proprio gli stessi valori, per dire 15 microfarad, una frequenza di 12,150, identica la domanda, l'ho trovata su questa sessione di due sessioni di esame, perché secondo me, come mi ha detto Pizzalis, c'è un computer per tutti, loro tirano fuori queste domande. A me Pizzalis mi ha detto, ci sono più di 1000 domande, ogni anno vengono aggiornate, tolgono via quelle, per dire, delle valvole che non le stanno più mettendo perché non hanno più le valvole, però ogni anno aggiungono delle domande nuove. Adesso, per dire, queste di diodi laser non le ho mai trovate in nessun libro, sono identiche a quelle che ho trovato io dei radioamatori, perché io di domande ne avrò almeno 3-4 mila e le ho fatte tutte quante da tutte le parti. In quelle domande che ho io non ne ho trovato una identica a quelle che ci hanno messo loro, mentre queste di questo esame in Svizzera, che fanno in Svizzera, dove ci sono 4 risposte, non più 3 come da noi, identiche, le stesse domande, ho trovato una ventina. Riuscissimo noi a trovare queste mille, famose mille domande che fanno, ti studi quelle mille domande, e io le ho chiesto a Pizzarelli, dice sarebbe troppo facile così, se studiamo in me la gestione, ma manco so da dove devo studiare. E infatti quello è l'opera. Capito, tu studi da una parte e allora se noi stiamo parlando come il quiz della patente, quando si studiano i quiz, alla scuola guida sono sempre voi, ma già quando si capita una cartella che si sono mischiate, però le domande sono sempre quelle, così che deve piacere. Perché si basta formularla, come stavo dicendo prima, il numero di testa, la domanda e ci piace con l'asino e il clinica. Il problema è quello che loro la fanno anche in diverse, in diversi modi la domanda, o Robè, perché io mi ricordo una volta sulle normative trovai qual era la differenza di stazione d'amatore e stazione di radioamatore, e io lì per lì mi sono trovato un po' di difficoltà, ma alla fin fine è la stessa cosa. E invece fortunatamente anche in quel caso passò l'ingegnere Emilio, che era molto una bravissima persona ed è ancora tutt'oggi, solo che non è più in pensione, però credo che vada sempre alle sessioni d'esame. Passò l'ingegnere Emilio, io lì col braccio appoggiato, mi ha detto cosa c'è? Ho detto ma sono un po' titubante, perché mi sembra che sia una domanda a tranello e che quindi l'operatività della risposta è uguale, ma stia molto attento, ci rifletta, ripasso dopo. Rifletta, ci passo, e io scrivo nessuna differenza. Quando è ripassato, allora ci ha pensato. Ma per me non c'è nessuna differenza, no? La differenza c'è, come se c'è. E come se c'è? Perché una stazione d'amatore è un amante delle radio al centro operatività, quindi uno che è, chiamiamo un SWL, un radioamatore è già un neopatentato, un patentato che ha l'uso e il possesso della radio. E quindi me l'ha fatto capire questa cosa, per dirti che a volte ti inceppano e sono fatte, no? Sì, ma te lo fanno apposta, cioè sono di quelle domande che te lo guardi nella busta per vedere fino a dove arriva la tua conoscenza. Sai fare quelle domande semplici, che non ci sia possibilità di errore, nel senso la risposta sia solo unica e non c'è. Lui infatti ci dice, quando siamo arrivati, allora ci sono tre domande, una giusta, una che potrebbe essere giusta e l'altra completamente sbagliata. La fregatura è questa che potrebbe essere giusta, che ti mette in difficoltà. Metti una domanda giusta, le altre due sbagliate, secondo me. Così si è più sicuro, invece ti poni in difficoltà, vedi, tra QRM e QRN, due cose sono sempre tutti e due disturbi, ti mettono una domanda, è un disturbo atmosferico o un disturbo generico, ti mettono una domanda così, proprio per metterti in difficoltà. E tra QRM e QRN la sai la differenza, no? Sì che la so, però cacchio, non me la mettere quella risposta lì, mettimi una unica risposta e l'altra metti QRN per dire segnale, forza dei segnali, una cosa, invece no ti mettono disturbo atmosferico o disturbo normale, come due risposte. Cioè, secondo me devono, per dire, faccio un esempio del codice Q che la cosa più c'è, però lo fanno anche sulle cose tecniche, sulle nozioni tecniche. Una cosa, sulla velocità di propagazione dell'onda dentro un cavo elettrico, e te lo metto in metri al secondo per fregarti. Conto ce l'ha fatta in chilometri al secondo, poi avrei resistito di scrivere a chilometri al secondo, poi ho fatto il conto, poi ho detto no, non può essere, perché viene diverso dalla velocità della luce, e poi vabbè ci vuole il fattore di riduzione, e stavo mettendo il primo tempo chilometri al secondo, invece la risposta era in metri al secondo, e lì uno che ci va per il percorso, per logica mette chilometri al secondo. Perché secondo lui è talmente veloce che può andare in chilometri al secondo. Ma invece non è così. Riprendi già. Ok, entrate su un istante. Pronto, invece ho paura di andarci anche. E mi devo preparare in manovra molto, molto bene. Non bastano queste intenti che la sto cercando. Bisogna che mi metta l'impegno proprio questo mi dice. Ma anche qui ci sono un sacco di formule, di cose, insomma. Non è che sono tanto facili anche questi, capito? E bisogna essere pronti, cioè memorizzarsi tutto, però anche avere una cultura in modo che uno non si stanchi anche nelle domande tra pochetto, e così io in questo momento non sono pronto ad affrontare un esame di radioamatore. Sì, no, ti sto dicendo, è talmente vasto, conta, come ha detto Claudio, molto la fortuna. O sei un ingegnere elettronico, però devi essere molto allenato, nel senso ricordarti tutte le formule e vai sicuro. Gli ingegneri elettronici gli fanno dare l'esonero, cioè chiedono l'esonero. Una persona normale, come me o come puoi essere tu, deve mettere a studiare, ma a studiare a vero, col rischio poi che dopo quello che hai studiato non riesci a niente, perché ti fanno domande che non figurano in quell'elenco di risposte, che giro di domande, di test che hai fatto tutti. Io ne ho fatto migliaia, non una, e test dalla sezione aria di Coso, di Verona, sono centinaia di domande, c'è un altro test di Coso, di, non mi ricordo, che avevano fatto questi radioamatori, li faccio tutti a uffa, tutti fatti, azzeccati, non ne sbaglio più una di quelle domande, altri libri che ho io, ci sono centinaia di domande, li faccio, però ti sto dicendo, le domande, le uniche domande che ho trovato io, non simili, identiche, in questo test della Svizzera, dei cantoni svizzeri. Però sono domande talmente volute, mamma mia, ha paura. Claudio, una domanda se ci sei ancora. Ho sentito buono a fumare o a bere. Io ce l'ho l'elettronico, il mio vicino di casa, e io penso che se va a dare l'esame e lui non lo supera, però la patente dice hanno un codice, però non penso che sia preparato in queste cose, non sono tutti. Hai capito, la può avere questa, come si chiama, però anche lì io penso che se uno non c'è la passione trova delle difficoltà. Lo so, ma adesso ti faccio un'altra domanda, senti questa, nel tempo un condensatore completamente carico di 5.000 microfarad si scarichi tutto attraverso una sua resistenza di 12 km, se viene applicata una resistenza di 12 km, cioè devi sapere tutte queste cose qua, il tempo di scarica, fattore di qualità, frequenza di risonanza, cioè talmente valore di picco, valore medio, valore massimo, ci sono centinaia, non dico centinaia, ma sono una trentina, quarantina di formule che te le devi memorizzare, guarda che non è semplice, poi non parliamo di decibel, che se non hai la calcolazione, se non ti portare le tavole logaritmiche, di lì le volevo le domande su coefficienti di amplificazione, cose del genere, non ve n'era manco una, niente, è quello che mi ha dato fastidio, di argomenti che mi piacevano, tipo antenne, radiazione, polarizzazioni, avanti e indietro, rapporto avanti e indietro, tutte queste cose, non c'era niente, perché anche agli altri, dice, non ne hanno mai messo, ce l'ha fatto con 16, tutte, non hanno mai busto delle antenne, chiedo questa la domanda su un quadripolo, alla frequenza di risonanza, non so che cosa, su che potesse, su quale frequenza si poteva accordare, domande di quel genere lì, io sì, stavo ascoltando Roberto. Dimmi una cosa, tu che sei nel campo tuo dell'acqua, ma lo conoscevi quello che ha avuto con l'incidente tuo nella tua ditta? Sì, non personalmente, l'ho visto qualche volta, quando sono stato a Cagliari. E vabbè, quelle sono delle cose un po' particolari che succedono molto molto raramente. Però uno che fa l'uso dell'autospurgo in quelle condizioni non è che può stare non attento al passaggio alle manichette con quella pressione che c'è. È successo e speriamo che non sia come hanno detto, perché ho chiesto ma non è come hanno detto. Sì, ma come fa a cadere una cosa del genere? Non riesco a capire, cioè stavo utilizzando qualcosa, ci avevamo buttato dentro, come fa a cadere in mezzo alla macchina? Vabbè, non so se l'hai seguito, lui era l'autospurgo, gli si è messa la manichetta della surbona in mezzo alle gambe, lui ha inciampato ed è caduto dentro, cioè sono cose che possono succedere. Ah, è inciampato con qualche cosa, no, io pensavo che stesse facendo qualche manutenzione di vicino e sta posto il bedello. No, ci sono i sensori, si bloccano le griglie, quando sono in movimento, in uso all'impianto, qualsiasi cosa tu non è del grigliato, roba leggera, la griglia si blocca, capito? Quindi non è quello il problema. La griglia si blocca, lui ha inciampato e purtroppo è andato a finire in mezzo alla griglia al momento in cui stava risalendo, ecco, le griglie pesano anche 200-250 kg perché sono delle pale con dei motori che tirano sul grigliato, il grigliato che arriva al depuratore della fogna, capito? Poi un'altra cosa, non c'entra niente, lo conoscevi quello di portatore del pontile, me l'ha detto ieri, poverino, mi dispiace, Nuvoli. Di ieri del pontile Nuvoli, io di Nuvoli ne conosco il portatore, no, di questo non so niente, cosa è successo? Salvatore Nuvoli, che è una vita della Porto Torres, che lui gestiva i punti lì dove sono la barca io, quello della gru, eccetera, ci sono i figli, eccetera. Ieri mi ha detto che è morto, prova la ciuga. Mi dice, sei andato anche al funerale, dice c'era il funerale ieri. Credo, tu non è il Porto Torres, sicuramente lo conoscono tutti. Salvatore Nuvoli, io non ho visto manco la fotografia, non giornava niente. In questi giorni poi sono un po' solo, sto facendo anche io un corso con la depurazione. Per Canica e non ho visto niente, ma c'è nel giornale di oggi? No, nel giornale di sabato, ma sicuramente lo conoscerà, non era giovane, mi hanno detto 75 anni, i figli poi sono più o meno dell'età nostra, vabbè, un po' più giovane, poi quello grande più o meno dell'età nostra, c'ha Tizio, Gianni e Lorenzo, e sicuramente li conosci, visto se li porto a Torre, sono più o meno quei tani tuoi, ma era super conosciuto di lì, lui era ormeggiatore prima e poi, almeno 20-25 anni, già di lì Ponti dove c'era la gru, non so se l'hai vista, di lì, dove attaccano la nave della Corsica. Ah, il padre di Lorenzo. Lorenzo è un finanziere, il figlio. No, forse stai confondendo. Lorenzo, Gianni Nuvoli. Lorenzo. Io non so se è quello lì. Io conosco Nuvoli che abitava vicino a casa di mia madre. Salvatore, noto Tanino. Non so se è lui. Tanino Nuvoli. ha 75 anni, insomma, lo conoscevo molto bene, infatti mi ha detto proprio ieri, mi dispiace perché è una brava persona proprio. E vabbè, cambiamo argomenti che sennò ci attristiamo ancora di più. Avanti Gianni. Sì, ok, io vicino a Babbo e capito, e non vuole meglio parlare di radio amatori di queste cose qua. Tornando al discorso, sono un po' vecchio quando mi faccio arrivare tutti questi libri nuovi degli esami e questa roba radiotecnica per Radio Amatori, perché lui mi ha detto che a me andava molto bene quello radiotecnica di Radio Amatori che sei tu, però ha detto le domande le altre le formuliamo noi e quello non so stare, non potevo dilungarmi al telefono con Pizzani perché stavo viaggiando in macchina. Capito, però voglio vedere in che modo voi formulate le domande, poi se c'è un, come si chiama, un libro per gli esami, dovete formulare le domande come sono, come quando io vado e compro il libro dei quiz della scuola guida, le domande sono sempre quelle, con le risposte giuste o sbagliate, poi nella cartella che capita all'esame possono essere mischiate, però come si chiama, non quelle. Quando ho fatto l'esame dell'economia di autotrasporto che non so come un diploma che era un nazionale internazionale in azienda, però le domande come si chiama erano sempre quelle che io ho studiato nei libri che avevo in casa, poi naturalmente c'era la butta chiusa, c'era lo scritto e tutto, però le domande che altrimenti si devono essere quelle che io studio in casa, io pensavo che sia così. Ma io ti ripeto, questo tipo di esame non l'ho mai fatto, quando lo feci io era troppo test, però credo a quanto mi hanno detto, proprio parlando con Pizzani, perché tra l'altro è rappresentante di Sassari, quindi coincidenza, certo, ne ho scaricato, le saranno 700 domande, la presa da quello della Svizzera, tu ti trovi di queste 700 domande una ventina, anche di più, che ci sono capitate identiche, con lo stesso nome, cioè con la stessa dicitura, gli stessi valori, per dire, quando tu scrivi 15,255 kHz, la stessa domanda esatta, con gli stessi valori, vuol dire che le prendono da qualche parte. A me mi ha detto Pizzalis che le domande le formulano dal computer, direttamente dal ministero, e secondo me, visto che le patenti ormai sono tutte unificate in Europa, nei paesi aderenti diciamo a quella convenzione, erano identiche le domande. Poi ieri, lunedì, quando siamo andati, ha aggiunto che qualche domanda la formulano loro, tipo questa dei Dio di Lazio, secondo me l'hanno aggiunta loro, però siccome le domande arrivano dal ministero, la busta è partita dal ministero, mi pare una fesseria che ha detto Pizzali, che prima mi ha detto una cosa e poi dice chiediamo all'ingegnere per la risposta, come l'interpretazione di questa risposta, di questa domanda, per cui secondo me le domande sono per tutti uguali. Il problema è che non te le pubblicano, perché gli ho detto perché non le pubblicate in modo che io sappia che sono quelle domande, come tutte le cose che studi, di tutti i corsi, di tutti i finanzieri, poliziotti, carabinieri, che ci sono le domande, se le studi e sono quelle lì, si studi le mille domande, dice lui sarebbe troppo facile così, ma invece è bello, come per dire, a me mi va di dire una domanda, il copertone, cosa succede? C'è un copertone nella macchina, anziché metterli con una misura li metto l'altra, cioè si fanno domande così a questi livelli, però riferite all'elettronica, tu magari sai tutto sul copertone, poi si va di una domanda domanda, cosa succede se il copertone gli cambio la misura oppure gli metto due misure diverse? E così ti faccio la domanda loro, sono domande troppo evolute, ma mettono in difficoltà anche persone preparate. Io le ho fatte vedere a delle persone preparate, c'è stato quello della Telecom, che lui si occupa proprio di cavi, di linee. Certo, questa è una risposta, una domanda che può dare diverse risposte, perché è come dire tu, radioamatore, che tipo di cavo usi? H100, guido guidato, ci sono diversi cavi, diversi... E questo ti hanno dato una risposta prestabile, cioè una domanda interpretabile. Ok, avanti qua. Sì, sì, ho capito, ho parlato perfettamente. E alla fin fine il discorso non è che cambi molto, ma alla fin fine tutto ciò che è risposta che tu devi dare inerente al quiz deve essere formulata con domanda piena, non a cui mettere a tranello, perché se la metti a tranello è un casino e mette in difficoltà il candidato, anche giustamente quello che hai detto tu. Mi devi dare una risposta, non probabile, quindi una errata, una probabile giusta, una giusta, ma stiamo scherzando, o sbagliata o giusta, basta, e lì il candidato riflette meglio, perché può dare anche il probabile, sul probabile anziché darti 5 ti danno 2,5 e già perdi punteggio, vai avanti così, metti tutti i probabili e non passi un attesi. Quindi dai un sì o no, finito, sì o no. Quindi il candidato lì sta attento, riflette, il tempo c'è perché c'è e quindi automaticamente la sessione diventa molto più leggera per tutti. È tutta una cosa organizzata secondo me, è stato sempre così e vabbè, noi la prendemmo allora a quei tempi un po' non molto alla leggera, perché mi ricordo che ci andavamo con molta attenzione, una preparazione veramente allucinante. Adesso non ci sono manco più i corsi che si frequentavano una volta nelle sezioni, mentre prima c'erano i corsi che si facevano in aggiornamento due volte alla settimana, anche tre volte alla settimana nel periodo degli esami, si facevano produttori, sezionari produttori, poi non si sono più fatti perché la gente non ne voleva più sapere, non era tutti avvenuta. E quindi sai, una minima preparazione, un dubbio te lo togli lì al momento, ma quando vai lì, sei seduto davanti alla commissione, devi scrivere, ti viene anche un pochino l'ansia e quindi cadi a volte nei tranelli come è già successo altre volte. Vai Gianni. Fate voi i corsi, nel senso facciamo dei corsi due mesi, tre mesi, quello che ci insegnate voi, quello che volete voi, sapendo cosa sono gli argomenti che interessano, e noi partecipiamo ai corsi e poi andiamo a fare l'esame, è la cosa più giusta, più logica. Invece no, noi non possiamo fare questa cosa, tagliate la luce, c'è una possibilità almeno di poter dare le risposte, perché così come sono impostate ti trovi velocissima risposta, almeno io qua ti posso garantire, non sono né tonto né troppo intelligente. Quando tu ti metti a studiare, tutto quello che ho studiato io lo sapevo, almeno al 99%, a parte solo che ti ho detto che ho fatto per imbecillità quello di R, del significato di R, ti potevi fare le domande di tutto quello che ho studiato, il 99% delle domande ti avevi risposto giustamente, perché ho fatto le prove io, su internet ci sono i test, vai uno dietro l'altro, alla fine le facevo tutte giuste, non ne sbagliavo più neanche uno. Ma quando arrivi di lì, quello che hai studiato, quasi tutto quello che hai studiato non è servito a niente, cosa fai? Devo pigliarmi un'enciclopedia per sapere quello che vogliono loro. Facciamo bene. costo, per questa opera molto difficile che a Sassari non c'era e non c'è ancora. Io ci ho contato, c'erano le ditte che c'erano grandi pulma, insomma c'è una ragione, però ho fatto 6 mesi di scuola alla Semini, tenevo 2 volte la settimana e venivano dalla motorizzazione a controllare se stavamo frequentando il corso prima di dare l'esame. Devono fare una roba del genere con un istruttore che ti guida, che ti prepara, e allora sì che uno può formulare, no, anche ho fatto il corso, all'esame ho studiato queste cose che tu hai fatto fare, ci hai fatto spiegare all'istruttore, cioè queste cose qui, però se io sono a casa e mi compro i testi che vedo che sono per dare questo esame, che mi studio, che mi pieno la testa di queste cose, vado lì e poi le cose non sono quelle, uno rimane anche con la mano in bocca, e sembra. E soprattutto, pur sapendo che tutto può andare bene, e chiaramente uno rimane soprattutto deluso, perché bisogna stare molto attenti. Io l'unica cosa che ho sempre consigliato a chi mi ha chiesto, giustamente, ho detto: guarda, non ti fidare mai di quello che dicono gli altri, lavora con la tua testa, rifletti con la tua testa, perché molte persone sanno di sapere, ma poi alla fin fine è solo così, voglia di scrivere, voglia di dire, voglia di fare. E soprattutto ho sempre detto: non vi fidate mai di quelli della commissione che passano e fate le domande e con molta disinvoltura vi rispondono senza così pensarci neanche 5 minuti. Non pensate che loro siano preparati in modo tale da poter rispondere così a bacchetta di tutto e per tutto, non è così. Loro rispondono in base a quella che è la loro esperienza anche operativa, ma alla fine ciò che è scritto deve essere scritto in maniera tale da essere la risposta giusta, tutta e perfetta, come il libro dice, non così, per sentito dire o per arrangiare un po' la risposta, no. Poi risulta sbagliata perché è tutto segnato e quindi quando va poi alla correzione risulta che sì, la risposta c'è quasi, però non è come deve essere formulata da quello che dice il libro attuale, ecco. E loro rispondono così molto velocemente: ah sì, sì, è quello lì, però dando un'indicazione, non dandoti la risposta esatta. Quindi bisogna stare molto attenti anche a quello, Robè. Sì, no. Ah, c'è la cosa da vedere, televisione posata in mano, c'è qua? No, nel salone qua non l'ho messo ancora perché devo comprare la piastra, quella che va a muro, perché inizialmente volevo metterlo sulla scrivania, ma invece poi ho lasciato perdere perché la scrivania piccolina mi serve per fare i lavori, perché cosa c'è? No, guardati, se ti capita il report, allucinante, nella zona di Genova dove è affondata, ti ricordi quella petroliera che ha bruttato tutto là, e questo perché lì stanno recuperando il pesce con la rete, con 1000 metri di rete, e hanno tirato il pesce, tutto catrame, ma proprio col catrame danno fine al mondo, di tutto il genere di roba che ci può essere in un coso, in un mondettaio, raccolgono tutta la mondetta, la raccolgono e poi stanno a lavare il pesce dal catrame, dallo schifo, e noi ci mangiamo col pesce, chissà da... Allora affondata quella petroliera. E di lì stanno pensando in quel territorio di lì, ma la cosa è schifosa, guarda, tu devi vedere come stanno lavando il pesce, e stanno facendo vedere la televisione quello che prende. Tu devi vedere cosa c'è di mondezza, cosa hanno nel miliardo, pezzi di tipo suole di scarpe di catrame mischiato al pesce, non la pompa, puliscono, ce lo ributtano a mare, lattine, pezzi di metallo, di tutto su quelli. Poi lo prendono, lo lavano prima col coso, con la pompa, poi lo mettono a pulire con sale, poi lo prendono al mercato come roba pulita. Dove è, che trasmissione? 3-3, report, non lo guardi mai quel canale. No, sì, aspetta, le 13 già. Sì, ok, ecco perché la gente poi si ammala, ci sono tutte le malattie, ci vengono malattie che tu neanche nell'immaginazione hai sviluppato il metabolismo, ecco, perché mai ho avuto questa estate, ok, che dico i capelli. portati dei programmi riguardanti anche alla macellazione dei maiali, dei bovini e della carne che poi noi importiamo. Guarda, io adesso ce lo faccio vedere a mia moglie un programma del genere, non mangia più carne. No, guarda, è allucinante, guarda che cosa c'è di schifette. Aspetta, ma anche adesso li hanno puliti un pochettino, per vedere come erano prima questi animali. Sono uno schifo, cioè è una cosa allucinante. Chi c'è a noi tutta la mondiale? Noi adesso le malattie dobbiamo stare attenti. I mali di adesso, tutte queste cose contaminate, così la frutta, questi cose che ci mettono, questi frutti per proteggerla da lì, sì, queste cose, tutte cose altamente intrusse. Va bene. E quello è molte volte uno viene qui in produzione propria, prendersi la roba genuina, che e niente, non lo fanno bene perché non è in regola, ma quelli sono i prodotti, diciamo, meno contaminati e più, diciamo, sani, perché io, lo ripeto, di questa roba che importano, c'ho il terrore, di male tutto, di frutta, di... perché qualche cosa, anche la carne, come stavo dicendo, beh, noi non stiamo più mangiando roba sarda, roba, è tutta roba importata e chissà con quali mangimi sono le fatti i maiali e tutti questi animali che poi vanno al macello. Bisogna stare molto attenti perché, ripeto, ci becca una malattia e il metabolismo va a finire. Come finisce a qualche luna, non lo so, non alimentare solo sta malata la gente, riprendi grazie. Queste cose sta guardando quel programma, era buono, allucinante. Così la frutta, la cosa che mi preoccupa più di tutti è la frutta. Dico a mia moglie sempre, lavala bene, i pomodori, tutte quelle cose lì dell'orto. Sanno per cavolo ci mettono, perché li vedi belli, grossi, tutti quanti, con delle forme stupende, poi vai a mangiare e non sanno di niente. Sono tutti riempiti di questi prodotti anabolizzati che puoi dare all'uomo, di lì li danno alle cose, le piante. Vediamo se è diventato Claudio. Io no, roba in consiglio, mi ricordo quando mamma faceva il drogo, ero piccolo, profumava la casa, lo penso che lo compriamo, tutto quello che vuoi, niente, non c'è sapore la carne, non c'è... Qualche volta io ho mangiato agli buoni perché me li hanno dati i cognati che lo sono allevatori alcuni, però io roba, non posso andare lì a portarmi roba in macchina per carne, l'agnello in macchina che è roba, hai capito, che non può creare dei problemi, quindi devo andare sempre a una cosa, comprare con lo scontrino e tutte queste belle cose e niente, come la bambina a casa di città mercato, questa cosa qui, roba, io sono sempre in terrore, molte volte salgo al paese vicino perché so che lui un po' di bestiame lo compra in zona per macellare, però le altre me ne guardo bene perché io giro e vedo il camion che scarica la carne e molte volte sono quelle stesse camion robe che portano la carne lì a Pedranita, che un tempo andavo io a comprare quella macelleria, però non è come la carne nostra, bisogna vedere, capito? Qualsiasi persona roba si può corrompere questo, quindi molte volte secondo come fanno passare, fanno e poi arriva nelle nostre tavole, prendi. Ma vediamo se è stato Claudio, ci sei Claudio? Sei Claudio? Riprenditela, aspetto che rientra Claudio anche io, dai, mi hanno chiamato dentro, faccio aspetto i saluti, vediamo, avanti già. E ok, aspettiamo anche io che entri Claudio. E così lo spegniamo di tutto il giorno a centro e questa roba poi troverò per l'alimentatore, non subito perché appunto mi ho adattato il microfono proprio per avere, non so come ci vuole da quell'alimentatore, poi c'ho il collo come accordatore, non te l'ho detto. Però adesso in bypass ho l'MFG come quello che c'ha Claudio, aspetto se c'è la sigla, dunque MFG 941 e lo conosci? Sono con la marca, la parecchio no, se lo vedo quasi, stavano bene, non ci sono problemi. Io cercando di tirare questa persona qua, questo animatore, lui c'ha l'MT3000 che è una bestia, ascoltatore del vecchio generatore ha tutti i contatti in argento, bellissimo. Purtroppo per il momento non me lo ha, comunque me l'ha promesso, la prima persona sono io, cioè siamo molto amici, mi ha detto che è rientrato lui nelle bandiere amatoriali, era più di 20 anni che non modulava, la patente era 73, ti ho detto tu, più di 20 anni non andava, e c'è un pezzo di filo e riesci a accordarlo con l'accordatore, infatti ha detto finché non sistemo tutto, sto cercando di farmelo dare. Ok, vediamo se è rientrato Claudio. Sì, sì, sono qua. Stavo mangiando un pappassino. No, io il 2000, vabbè, l'ho preso. Era di Carlo Titano. Movimento il 2000. Ed è un ottimo strumento della Magnum. Va molto bene. No, Gianni, io ho l'MFG 948, il più grande che c'è. Il più grande che c'è, c'ho io, 941 è quello più piccolo. Vanno molto bene come correttore, ne ho diversi. No, sino adesso il numero uno in assoluto è questo della Magnum, MT2000, che è prima del 3000. Perché questo accorda tutto, c'è uno strumento favoloso, lo smetto il vatto, però 4 ingressi d'antenna. C'è il carico fittizio, spettacolare. Sì, vabbè, io vi saluto, dai. Beh, si è fatto tardi, adesso mi guardo un pezzo di televisione, così mi viene l'usone e mi trombo. Vi saluto, è stato un piacere, come al solito, chiacchierare con te, con Gianni e con quelli che c'erano prima. Vediamo domani se ci siamo, visto che adesso ho più tempo, prima ero un po' impegnato per gli studi. Adesso, spero di non abbandonare del tutto, non faccio come ho fatto l'ultima volta. Vorrei andarci, però, solo per puntigli adesso vorrei andare a vedere come va a finire la studia. Ok, vi saluto, ciao ciao, aspetto i saluti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, avanti Claudio. Ecco, hai detto una cosa bella per Puntiglia. È lì che si vede veramente quando uno ha voglia di avere. A volte dobbiamo mettere anche un po' la puntiglia, la rabbia e fare. Quindi non mollare tra un passaggio e l'altro, una giornata e l'altra, sempre un ripassino alla ricerca di cose magari che possono essere un po' difficoltose o trovarle magari nel quiz stesso e tirare le somme. Ok, ciao Robè, non ti trattengo, buonanotte, saluti a casa e ci sentiamo magari domani se ne voglia. A te Gianni. Ok, ciao Roberto, sono fuori a te al cuore familiare, quindi domani è festa ancora se ci vogliamo fare quattro chiacchiere, io ne ho, diciamo, dentro il tre. Perché gli altri giorni di molti che non c'era a scuola, quindi dentro i tre, però già a martedì devo andare a vedere la carta, cambiare il direttore della scuola Buzzani, quindi un attimino hai capito di lavoro, ma mi accontento anche di quello, così che io mi fitta. Ok, buonanotte Roberto, riprendi classe. Ok, d'accordo. E anche io lo stesso martedì ce l'ho a fare, no? Anche adesso sono al lavoro, io adesso le tribune siamo domani mattina alle 5, quindi spero che stanotte non ci siano problemi. La nottata è bruttissima, c'è un vento, c'è molto vento, sta piovendo, quindi spero che sia tutto così tranquillo, che altrimenti purtroppo il lavoro bisogna farlo. Va bene, poi da domani, vabbè, festa, poi da martedì dovrei essere in ferie, se non cambiano idea, dovrei essere in ferie, vediamo un pochino, ok, e già, ma è tutta la sera siamo in radio, quindi sono solo 10:15, non è che ne abbia più voglia neanche io, sono stanco, quindi un altro passaggio poi chiudo anch'io, mi guardo un po' di TV, tanto se arriva mia figlia da lavoro, lui sicuramente dovrà uscire, perché oggi c'è festa, la festa di Halloween, quindi diciamo così mi ha detto delle mie figlie, voglio fare due chiacchiere. Ok Gianni, ancora a te, dai, un altro passaggio, poi chiudo. Lei è alle casse, ma non di Città Mercato. Dentro Città Mercato, ma è al McDonald's. No, quello non lo so proprio dove. Questo McDonald's sopra, quello che c'è sopra. No, è sotto, c'è anche sopra. E dove fanno... dove c'è, insomma, quelle... non so come chiamarlo, se ristorante, se... è un fast food, comunque. È lì. È lì. Lì o sta al bar o sta alle casse. È diplomato all'alberghiero in sale bar, quindi è già un po' di anni che lavora lì. Ed è abbastanza, insomma, stressante la cosa, anche perché aprono in periodi anche di festa. Domani credo che sia a riposo, comunque credo che sia a riposo, che se stanno, se esce stanotte, tutta la settimana rovina, non va da nessuna parte. Quindi solo una giornata un po' brutta, e non so se devono andare a Ossi, anzi prima di andare a Sorso a prendere una sua collega di lavoro, senza macchina, poi deve andare a Osci, quindi vabbè, bisogna stare attenti con queste nottate così, bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Infatti, no, forse la classica colonna, ho capito dov'è questa roba, perché quella dove ci sono le scale mobili, sì, una volta avevo preso un caffè lì, che mi ha servito proprio la signorina, non so se è lei, Gianni, ascolto il finale e poi chiudo.